La zanzara con Alessio Maurizi. Numero verde 824 0024 per intervenire anche questa sera fino alle 20.30. Cari ascoltatori, 349 238 6666 per i vostri sms. La zanzara è radio24.it. Cercateci anche su Facebook, La zanzara. E allora benvenuti anche questa sera in compagnia mia, di Alessio Maurizi e di Laura Marchesi e Marco Lombardo in redazione. Abbiamo Mauro De Angeli in regia. Sentiamo subito i titoli di Sky TG24. Borse europee contrastate dopo il vertice all'Eliseo, la migliore è Piazza Affari. La manovra è al Senato, l'iter comincia lunedì con l'esame in commissione. Calderoli propone di intervenire sui calciatori, paghino un'aliquota doppia. Ma spunta anche l'ipotesi di inserire le TFR in busta paga, lo scopo è rilanciare i consumi. Verso l'11 settembre, Obama, il rischio terrorismo sono lupi solitari. La strage sulla A26, accusato di omicidio volontario, l'albanese è arrestato oggi. Namibia, tour operator sotto accusa dopo l'incidente costato la vita a un'italiana. Lo squalo torna a colpire alle Seychelles, un turista italiano denuncia, mancano gli avvisi. Può dare di più, ma soprattutto prendeteli da un'altra parte i soldi per aggiustare i conti pubblici, non dalle parti nostre. Sembra essere questo il leitmotiv di queste ore di vigilia di una discussione che ci sarà parlamentare, quindi accadrà tutto il contrario di tutto attorno alla manovra così come l'abbiamo conosciuta sino ad ora. L'elenco delle richieste di interventi per dare di più, ma da un'altra parte, è lungo. Cominciamo con Roberto Formigoni, governatore della Lombardia, che oggi, oltre a chiedere a Berlusconi uno scatto liberale, anche lui, quindi di tagliare e non di fare nuove tasse, dice, per esempio, potremmo vendere la RAI a Murdoch. E anche questa è un'idea per prendere di più, ma da un'altra parte. Oppure c'è chi, come Giachetti del PD, dice prendiamoli dai 180 milioni di euro che vanno ai finanziamenti ai partiti e viriamo i finanziamenti sul meccanismo del 5 per 1000. Giachetti. Qualcuno vuole prendere in considerazione, io lo dico provocatoriamente, ovviamente so che anche all'interno del mio partito questo non è argomento particolarmente amato, però noi se dobbiamo fare delle operazioni di verità, 180 milioni l'anno destinati ai partiti, perché non spostiamo questo finanziamento con un sistema come il regime del 5 per 1000? Prendiamoli dunque dai partiti, e questa è sicuramente una proposta molto popolare, anche se viene da un membro dell'opposizione, non so se avrà speranza di arrivare in porto, ma lo stesso vale un po' per tutte queste proposte. Un altro esempio di si può dare di più, ma da un'altra parte, viene da Filippo Facci oggi sul Giornale, che se la prende con la Chiesa, non è l'unico a dir la verità. Dice Facci, basta infilare una cappellina, un altarino, una statuetta, un mezzo padre Pio in un angoletto di grandi alberghi, ristoranti, cinema, cliniche, scuole, impianti sportivi o interi palazzi con appartamenti in affitto, tutto di proprietà della Chiesa, che è leader nazionale con 100.000 fabbricati, ed ecco che un immobile viene definito adibile a culto e viene perciò completamente esentato al pagamento dell'ICI, senza contare le altre agevolazioni, scrive ancora Facci, le tasse non pagate, secondo una stima europea, ammontano ad almeno 4 miliardi di euro. Prendiamoli dunque dalla Chiesa. Oppure prendiamoli dalle tasche dei calciatori. Sapete la polemica, una polemica che in realtà, come avete sentito forse anche ascoltando il giornale radio, le dichiarazioni del capo del sindacalismo dei calciatori Tommasi, dice ancora non abbiamo parlato né di sciopero né di nulla, però si sa che la regola dei contratti dei calciatori è questa: gli stipendi sono considerati al netto delle tasse, dunque qualsiasi aumento dell'imposizione fiscale ricade sulle società e sui presidenti delle società di calcio. Però Galliani stavolta ha detto noi non tireremo fuori una lira. Le tasse, il prelievo del contributo di solidarietà, che per i calciatori con stipendi attorno ai milioni di euro è consistente, lo devono pagare i calciatori. E allora Calderoli cosa si inventa? Raddoppiamo il prelievo sui calciatori, che sono solo dei milionari viziati. Non lo sai neanche tu. E allora un'altra proposta viene da Ignazio Marino, un altro esponente del PD che se la prende, l'ha fatto anche l'Italia dei Valori, con le spese militari. Spendiamo circa 1,5 miliardi l'anno per le nostre azioni militari all'estero e non abbiamo toccato neanche di un euro gli investimenti in armamenti. Noi abbiamo investito 29 miliardi di euro in 121 aerei da caccia, 131 F-35 che sono caccia bombardieri e 100 NH-90 che sono elicotteri da combattimento. Anche la Merkel ha ridotto le spese di queste macchine da guerra, perché tagliamo, non possiamo farlo anche altrove, noi, investire di più in sanità e in ricerca. Tagliamo altrove, in effetti è questo un po' il ritornello, si può dare di più ma non prendeteli dalle mie parti. Il sindaco di Verona Tosi, sempre ai nostri microfoni, dice i grandi patrimoni e i capitali scudati. E del resto quando fai questo tipo di manovre colpiscono o le pensioni, o gli enti locali, o i redditi, quindi IRPEF eccetera, o i patrimoni. L'unica cosa che non hanno colpito seriamente sono i grandi patrimoni, che forse era la cosa dalla quale cominciare, perché tagliare i comuni, tagliare le pensioni e tagliare i redditi era la cosa da cercare di evitare. Basta pensare che con lo scudo, con i due scudi, sono rientrati 200 miliardi e hanno pagato il 5% di tasse, basterebbe applicare la patrimoniale sul capitale rientrati con lo scudo, ne trovi di risorse e compri tutta la manovra senza problemi. Nell'elenco di dichiarazioni di giornata mettiamo sicuramente anche Francesco Pionati, una difesa d'ufficio della classe politica da uno che non è politico di professione, perché lui fa il giornalista, una difesa d'ufficio, dicevamo, di Pionati, che dice: noi stiamo diventando il capro espiatorio dell'Italia. Se ne è accorto anche lui, sì, che più che capro espiatorio direi sicuramente capo d'accusa principale, però per lui è solo un alibi, sentiamo. La storia ci insegna che nei momenti di difficoltà si cerca il capro espiatorio, che è sempre il politico. Il problema è distinguere tra privilegio e non privilegio. Se essere un parlamentare, se lavorare in spirito di servizio per la comunità è un privilegio, eliminiamo il Parlamento, eliminiamo i parlamentari, avremo una festa di piazza, il popolo viola festeggerà e poi il paese sarà all'anarchia. Bisogna distinguere fra la demagogia e le cose giuste. Per quanto mi riguarda, da collega a collega, Pionati mi verrebbe da dire, da collega giornalista prestato alla politica, che il problema non è tanto quello delle spese della classe politica dei politici, ma della loro efficienza. Sarà banale, è stato già detto, ma mi allineo a questo giudizio. Chiudiamo con un'altra proposta, si può dare di più ma da un'altra parte, prendiamoli dagli incassi della prostituzione, così il sindaco di Altopascio, Marchetti. Se noi facciamo un conto rapidissimo, fatto di stime che le prostitute in Italia sono da 70.000 a 100.000, se lei può considerare che su queste 70.000 facciamo un utile di 100 euro il giorno, lei provi a fare due conti e le moltiplichi per i 365 giorni e vediamo cosa viene fuori, no? A proposito di prostituzione, ha fatto discutere l'intervista dell'ex governatore del Lazio Marrazzo dopo molto tempo dall'incidente che gli è capitato e che gli è costato le dimissioni. Un'intervista a Concita De Gregorio sulla Repubblica, ha detto: sono andato dalle transessuali perché avevo bisogno di un momento di accoglienza per riprendermi dallo stress del mio lavoro. E poi le transessuali, dice Marrazzo, sono donne all'ennesima potenza perché hanno questa capacità di accudimento. E giù reazioni nel mondo delle donne femministe e non, che dicono: questo modello di donna uguale accudimento è sbagliato e ci riporta indietro di 1000 anni. E poi le transessuali sono donne all'ennesima potenza, care ascoltatrici soprattutto, ma anche ascoltatori, 824 0024. Nell'elenco delle dichiarazioni di giornata vogliamo inserire anche Daniela Santanchè, una delle, non voglio dire poche, difese d'ufficio o difese comunque della manovra economica, che lei appunto difende così. Questa manovra non incide nelle tasche degli italiani, incide, abbiamo cercato di farlo nei ceti medio-alti, non toccando i ceti bassi, non toccando i servizi, non toccando la sanità, non toccando la scuola, non toccando la ricerca, non toccando la cultura, certo. Abbiamo invece per la prima volta veramente fatto dei grandi tagli alla cosiddetta casta, 52.000 poltrone in meno. 52.000 poltrone in meno, dice Daniela Santanchè, però qualche dubbio su questi tagli alla politica c'è in giro, serpeggia, per una ragione. Per esempio la riporta molto chiaramente Libero, il quotidiano Libero. Non sono stati ancora quantificati i risparmi che dovrebbero venire dai tagli alle comuni e alle province, semplicemente perché non si sa ancora quanti saranno, ma insomma questo desta qualche preoccupazione. Scrive Franco Bechis oggi sul Libero: la casta, i tagli alla politica, guadagni previsti, due punti, 0 euro. La relazione tecnica al decreto conferma la paura che la stretta sulle poltrone resti solo sulla carta, le riforme sono ancora in forze e quindi i risparmi non vengono prudenzialmente quantificati. Bechis nel suo articolo fa l'esempio dei voli che i parlamentari saranno costretti in base al nuovo decreto a fare in seconda classe, non più in prima classe, dice Bechis. Volano sugli aerei dell'Alitalia e questo per obbligo. L'Alitalia sulle tratte nazionali non ha la prima classe, dunque risparmio uguale a zero. Anche di questo vogliamo discutere con Roberto Formigoni, governatore della Lombardia. Buonasera. Buonasera a lei. E però prima dobbiamo fare una pausa per le informazioni sul traffico. Rientriamo tra pochissimo. Formigoni, poi ascoltatori all'824 0024. Formigoni, io nell'introduzione ho detto si può dare di più, c'è un elenco, una gara a dire si può dare di più, ma prendeteli da un'altra parte. Ci ho messo anche lei un elenco tra il serio e lo scherzoso, però insomma l'elenco delle proposte si allunga in queste ore. Lei in un'intervista oggi su Repubblica dice per esempio vendiamo la RAI a Murdoch e risparmiamo qualcosa. Devo dire che nella sua intervista c'è anche una parte chiaramente in cui lei dice no, rimbocchiamoci tutte le maniche, facciamo dei sacrifici perché il momento lo richiede. E però c'è un po' un clima da prendeteli da tutte le parti, ma non dalle mie parti, Formigoni. Ma guardi, sì, qualcuno può anche interpretarlo in questa direzione, però la verità è che c'è anche così una ricerca di quale sia il modo migliore per far fronte a questa manovra che è necessitata nei famosi saldi, nei totali. È una manovra che era fatta e cui totali sono stati concordati con la Banca Centrale Europea, che in cambio si è messa ad acquistare i nostri buoni del tesoro, quindi è giusto che il governo abbia stabilito l'entità totale e abbia fatto una sua proposta, dopodiché è anche legittimo che il Parlamento modifichi, ovviamente cercando di migliorare. Quello che il tema che lei ha ricordato, la mia proposta di vendere la RAI, è una proposta più complessiva. Io dico che prima di ricorrere ancora, di mettere le famose mani nelle tasche degli italiani, e prima di abbattere i finanziamenti alle regioni e ai comuni, che significa ulteriori abbattimenti ai servizi dei cittadini, lo Stato ha molte ricchezze che potrebbe dismettere senza far danno a nessuno. Nei momenti di difficoltà la famiglia mette in vendita i propri gioielli, la propria argenteria, si può continuare a vivere lo stesso, l'importante è non intaccare il regime quotidiano di vita, l'alimentazione eccetera. Io ho fatto due esempi, ho detto la vendita della RAI, la vendita delle Poste sono due asset non strategici per il nostro paese, che porterebbero a casa, secondo le più recenti valutazioni, dai 12 ai 14 miliardi di euro, e si potrebbe diminuire di altrettanto i tagli ai cittadini. No, ho fatto soltanto due esempi, la RAI e la Posta. Si potrebbero anche tagliare una parte dell'immenso patrimonio immobiliare che lo Stato ha. Sono tutte ricchezze accumulate nel corso degli anni con il contributo di tutti i cittadini. È giusto tenerle in un tempo di vacche grasse, in un tempo di vacche magre, piuttosto. Ma perché secondo lei Tremonti non è intervenuto? C'è stata secondo lei un po' di, come ha detto qualcuno, un po' di approssimazione anche nel modo nel quale si è arrivati a questo decreto, Formigoni? Guardi, il tempo necessario è stato pochissimo, perché il governo aveva appena fatto la manovra di luglio, anche quella molto pesante e molto incisiva, anche quella di una cinquantina di miliardi. Dopodiché il fatto che le borse non reagissero positivamente, la crisi complessiva dell'euro, ha spinto il governo a decidere nel giro di pochi giorni una manovra aggiuntiva, ripeto, necessaria e necessitata, e ha messo dentro una serie di provvedimenti che hanno una loro logica. Io però dico che nel tempo necessario per trasformare il decreto in legge sono 60 giorni, è giusto che tutti, maggioranza, opposizione, forze sociali, avanzino proposte che poi andranno discusse. Lo stesso Presidente del Consiglio ha detto i saldi sono intoccabili, e ha ragione, abbiamo concordato con l'Europa questo ammontare di tagli, questi saranno, però si possono modificare. Io ho indicato in particolare due voci che mi sembrano fra l'altro contraddittorie con la filosofia del partito che io appartengo, del Popolo della Libertà, cioè per la prima volta il nostro partito è costretto a mettere tasse sui cittadini, questo però contraddice uno dei nostri impegni fondamentali e in maniera pesante si toccano le regioni comuni, questa è anche una ragione di eleganza dei ministri, non mi è affatto piaciuto che il Consiglio dei Ministri per la terza volta abbia calato la mannaia pesantemente sulle regioni comuni mentre ha dato soltanto una spolveratina a se stesso, i ministeri sono appena appena toccati come era successo nel luglio di quest'anno e come era successo nel luglio dell'anno scorso, ora al di là delle questioni di eleganza bisogna tagliare sullo Stato centrale perché regioni comuni che sono a diretto contatto con i cittadini sono quelli che non avendo risorse, non avendo beni immobiliari da dismettere, non avendo ricchezze da dismettere devono per forza o fare i salti mortali, ma il salto mortale è molto molto complicato, oppure tagliare i cittadini, questo è il rischio quindi che si corre di ulteriormente gravare sulle spalle dei cittadini. Senta, non so se ha sentito, prima abbiamo fatto sentire un contributo audio della Santanchè che dice per la prima volta non si colpiscono i ceti medio-bassi, popolari, si è chiesto un sacrificio ai ceti medio-alti, non è che lei e altri esponenti del PDL, per esempio la cosiddetta fronda liberale, adesso criticate la manovra perché ha chiesto un sacrificio a quello che è una parte anche del vostro elettorato di riferimento, cioè i ceti medio-alti, questo famoso contributo di solidarietà Formigoni che però riguarda 500.000 contribuenti, la parte che supera i 100.000 euro. La parte che supera i 90.000 euro, sì, diciamo la parte onesta che supera i 90.000 euro, cioè quelli che superando i 90.000 euro lo denunciano tutto al fisco, purtroppo sappiamo che in Italia c'è un fenomeno molto esteso di evasione fiscale che è presente in tutto l'Occidente, ma si calcola che in Italia sia presente più che altrove, quindi è lì che questo è il primo provvedimento da cercare di potenziare, la caccia veramente all'evasore fiscale e all'evasore fiscale totale, non a quello che dichiara 20.000 questo... euro dovrebbe dichiarare 22, sì su... anche questo, però ecco. Innanzitutto la caccia all'evasore fiscale totale. No, per il però il decreto ripeto... su questo aspetto importante era la caccia all'evasore, come lo giudica? Perché la cifra che si mette diciamo a bilancio è 1 miliardo di euro, qualcuno dice troppo poco. Guardi, la verità è che non è facilmente quantificabile, perché è chiaro che vanno stabiliti i criteri i più intelligenti possibili per dare la caccia all'evasore, ma l'evasore è un animale intelligente che usa malvagiamente la sua intelligenza per sfuggire al fisco, quindi si tratta di cacciarlo, ma non è detto che si riesca quest'anno a portare a casa 10 miliardi e l'anno 21 altri 20 miliardi. In questi anni è stata intensificata la caccia all'evasore totale e sono stati anche ottenuti dei risultati. Io dico che si possono fare misure aggiuntive anche se purtroppo non si possono mettere a bilancio. Ma lei... sì. Prego, prego. No, lei diceva prima i superiori 90.000 euro, sì. Certo, voglio dire, giustamente il governo non ha toccato i ceti popolari e il ceto medio-basso, questa è una misura di equità che va riconosciuta alla manovra, come d'altra parte questi ceti non erano mai stati toccati, il governo di centrodestra non aveva mai messo tasse sui ceti medi e sui ceti popolari. Io dico però che quando una persona, 90.000 euro all'anno, ma quanti figli a carico, magari a carico anche la nonna, allora bisogna introdurre un altro criterio che è anche quello del quoziente familiare, perché evidentemente se tra me e lei guadagniamo entrambi 90.000 euro, facciamo il caso, ma lei deve anche mantenere la moglie, 3 o 4 figli, magari appunto un anziano genitore, io invece sono single, è chiaro che la mia vita è molto più facile o meno difficile della sua, quindi introdurre il criterio del quoziente familiare è una misura di equità, anche questa è una novità che io suggerisco di inserire nella manovra. Ma lei condivide per esempio chi come Antonio Martino dice, consiglia Berlusconi di ritornare all'origine, l'ha detto anche lei, insomma siamo il partito che ha promesso di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, quindi il meno tasse per tutti. Le chiedo questo perché ieri per esempio Merkel e Sarkozy hanno avallato e l'Unione Europea sta lavorando su questa ipotesi della Tobin Tax che qualche anno fa sembrava una cosa da no global e adesso invece arriva ai vertici istituzionali dell'Unione Europea. Non è che il vento è cambiato e quindi... questa rivoluzione liberale adesso non è più aria per meno tasse per tutti. Il vento è indubbiamente cambiato in tutto tutto l'Occidente, la crisi economica che impazza dal 2008 non è stata ancora ricondotta nei suoi sentieri, questa è la verità, una riflessione globale deve essere questa, la crisi scoppiata nel 2008, partita dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna a 3 anni abbondanti di distanza, non sa ancora nessuno come fronteggiarla veramente, quindi è il momento proprio questo di realizzare la rivoluzione liberale tagliando la spesa piuttosto che mettendo le tasse. Attenzione, è giusto chiedere un contributo a chi più ha, ma la linea di tendenza deve essere quella di abbassare il peso dello Stato, soprattutto in Italia, dove sappiamo di avere a che fare con uno Stato molto pesante, molto invasivo. Il criterio da cui noi siamo partiti è quello del più società meno Stato, cioè far pesare meno lo Stato sulle spalle dei cittadini. Ecco perché io insisto che innanzitutto si dismettano i beni non strategici, in secondo luogo si alleggerisca il più possibile, partendo dal principio che il cittadino sa sempre meglio che cosa fare dei suoi risparmi di quanto non sappia lo Stato. Ripeto, però usare una misura di equità è compatibile con questa regola che do. Diminuire il peso dello Stato e nello stesso tempo gravare di meno su chi percepisce di meno o su chi ha carico altre persone, come per esempio la famiglia. Senta, io nell'elenco del, non so se l'ha sentito, del si può dare di più, ho messo dentro anche la proposta che viene di diminuire alcune agevolazioni fiscali a favore della Chiesa italiana. Lei che è un esponente politico molto vicino alla Chiesa, cosa ne pensa di questo in questo momento difficile? La Chiesa resta intoccabile, per esempio sull'ICI? Ma guardi, anche qui ragioniamo un istante, che come utilizza la Chiesa questi fondi che gli sono messi a disposizione, per esempio dallo 08 per 1000? Non certamente per abbellire di ori i propri edifici, li utilizza poi iniziative sociali, come iniziative di assistenza, iniziative educative, quindi sono sempre aiuti che vanno alla fascia più bassa delle popolazioni. Dobbiamo stare attenti, come chi dice tagliamo i comuni, sì d'accordo, tagliamo i comuni, ma i comuni cosa fanno con questi soldi? Molto spesso mettono dei servizi sociali a disposizione dei cittadini, quindi si tratta di essere intelligenti nell'andare a vedere dove si può tagliare senza procurare danno ai cittadini, soprattutto alle fasce più basse, e dove invece si va a tagliare proprio la carne viva dei servizi ai cittadini. Però io ho letto l'articolo di Facci che dice basta mettere un altarino, una statuetta, un Padre Pio in un angoletto di grandi alberghi, ristoranti, cinema, cliniche. È vero che come dire, gli affari della Chiesa si sono estesi molto, e quindi forse un'analisi su questo, ma lo diceva lei stesso, cioè bisogna vedere che cosa poi fa la Chiesa con questi sussidi che gli arrivano dallo Stato. Si può aprire un'analisi da questo punto di vista? Quello che fa no? È regolamentato in maniera molto chiara ed è controllato in maniera molto chiara, cioè a meno che il signor Facci o chi come lui voglia andare a toccare le offerte libere dei fedeli, e questo realizzando una sorta di tirannia assolutamente inaccettabile, ciò che lo Stato dà alla Chiesa è lo 08 per 1000, che è legato ad iniziative di carattere strettamente sociale, caritativo, assistenziale, soprattutto verso i ceti più bassi, che la Chiesa realizza. Ripeto, non mi auguro che nessuno voglia andare a toccare le libere offerte dei fedeli italiani o del mondo. No, ma per esempio l'ICI sì, è un'agevolazione dello Stato, non ha nulla a che fare con, come dice giustamente lei, con le libere offerte dei praticanti. Ma anche l'ICI, appunto, cioè vogliamo far pagare per essere patrimoni di chiese. Le chiese sono un patrimonio storico, anche artistico, culturale, servono per il culto delle persone. Il fatto di poter avere una religione è stabilito chiarissimamente in Costituzione, fra l'altro esistono anche dei trattati internazionali che legano lo Stato italiano. Sì, però Formigoni, in effetti si sa che ci sono una serie di immobili che non sono esattamente delle chiese, sulle quali è difficile essere in disaccordo, insomma, visto che c'è un accordo tra lo Stato e la Chiesa, però non tutti gli immobili sono delle chiese, forse su questi se sono, come guardi, dire, adibiti ad attività parallele, forse si potrebbe calare la, non dico la mannaia, ma insomma far entrare il fisco e raccogliere qualche cosa in questo momento difficile. No, le dicevo, uso la sua trasmissione per lanciare una sfida. Questi signori facciano l'elenco degli edifici che secondo loro sono usati in maniera irregolare dalla Chiesa. È facile lanciare un'iniziativa dal sapore un po' retrocio, ottocentesco, anticlericale, anticattolica. Facciano l'elenco di quello che secondo loro viene dato dallo Stato alla Chiesa Cattolica, ripeto, rilegata anche da rapporti internazionali, che secondo loro viene utilizzato male di fronte a denunce precise. Certo, altrimenti si tratta di... Altrimenti mi sembrano accuse così molto, molto facilone, demagogiche, ma che non corrispondono a verità. E io in questo momento non sono in grado di fare un elenco dettagliato, solo un capitolo delle varie proposte che ci sono in queste ore sul tappeto: diminuire le agevolazioni per la Chiesa. Formigoni, a parte questo, come va con le magliette formigoni.it? La sua campagna l'abbiamo lanciata, l'abbiamo fatta sentire ieri, il suo intervento in cui chiede, cos'è, un concorso che ha fatto, un concorso di idee per l'Italia? Un concorso di idee per l'Italia, sì, lei sa che mi diletto di comunicazione anche attraverso i new media da diverso tempo, e quindi ho lanciato queste idee in un momento difficile per il nostro paese. Ho detto ai naviganti della rete, ma anche a tutti gli amici e conoscenti chi vuole lanciare idee per l'Italia può farlo collegandosi al mio sito, e lo potrà fare in diretta settimana prossima durante il meeting di Rimini, venendo allo stand personale che ho allestito. Ritengo che in questo momento, appunto, anche di grande fervore di partecipazione, perché si dice spesso che la politica è lontana dalle aspettative della gente, ma in questo momento la gente ha tanti suggerimenti, ha tante critiche. È anche un po' una cosa di marketing suo, però, il brand Formigoni che lei sta portando avanti. Formigoni che lancia questa iniziativa, e quindi la lancio sotto la mia personale responsabilità. Autofinanziata, no? Immagino, sì. Ho anche deciso amichevolmente di distribuire qualche maglietta di puro cotone, qualcuno voluto sottolineare questo, di cotone a chi vorrà partecipare, è collegata anche a una sorta di concorso a premi, ma l'idea fondamentale, ripeto, è quella di raccogliere idee per il governo dell'Italia, di farle circolare, di alimentare la discussione. Però è autofinanziata, no, questa iniziativa? Non è, no, chiariamolo, perché di questi tempi Formigoni non si sa mai. Sono iniziative del cittadino Roberto Formigoni, non di Formigoni, presidente di Regione Lombardia. Non è un'iniziativa istituzionale lombarda, è un'iniziativa del cittadino Formigoni che ha costruito un suo sito. Lo troverete al meeting di Rimini dal 21 al 27 agosto. Grazie Formigoni, grazie, buona serata. Grazie. Abbiamo la borsa che siamo un po' in ritardo e rientriamo tra pochissimo. 824 0024. Numero verde 824 0024, tra pochissimo con i vostri interventi in diretta, titoli del TG2. La manovra arriva al Senato, maggioranza aperta al confronto, l'opposizione chiede modifiche sostanziali sul contributo di solidarietà, Calderoli avverte i calciatori, aliquota doppia se protestano. È accusato ora di omicidio volontario il conducente del SUV che, ubriaco guidando contromano, ha ucciso quattro ragazzi francesi in Piemonte. Arrestato proprio oggi, aveva chiesto scusa. È panico tra i turisti alle Seychelles, due in pochi giorni uccisi da uno squalo, uno dilaniato mentre era in luna di miele. Al TG2 un testimone italiano: ho visto tutto, pericolo mai segnalato. Approci dall'ordinanza del sindaco dopo l'accoltellamento di un ragazzo all'alba. Discoteca vietata d'ora in poi ai sedicenni dopo la mezzanotte. Ingresso consentito solo se accompagnati dai genitori. Ubriaco su un aereo di linea, l'attore Gérard Depardieu non si trattiene, fa la pipì fuori dalla toilette davanti ai passeggeri sbigottiti. Aereo che rientra a Parigi, l'attore fatto scendere. La compagnia ora potrebbe chiedergli i danni. Commenti degli ascoltatori su Facebook all'intervento di Formigoni. Formigoni, la smetta, prima cosa, è l'8 per 1000, non lo 0,8 per 1000. Evidentemente Formigoni si era sbagliato su questo. E poi c'è chi ricorda che ci sono hotel e immobili della Chiesa che non sono adibiti al luogo di culto e che quindi potrebbero pagare l'ICI regolarmente. 18:40, tra poco ascoltatori, prima sentiamo i titoli di Studio Aperto. Arrestato e portato in carcere ad Alessandria l'albanese che, guidando ubriaco e contromano, aveva ucciso quattro ragazzi. Il giudice l'aveva lasciato libero. Oggi l'accusa è omicidio volontario plurimo aggravato. Lui, disperato, dice: sono morto anch'io, piangerò sempre per loro. Manovra, primo approdo in Senato, ma l'aula è semideserta, si discute sulle possibili modifiche. Il PDL non blinda il provvedimento a patto che le cifre rimangano invariate. Calderoli, calciatori protestano, paghino il doppio il contributo di solidarietà e scoppia la bufera. Dramma familiare ad Avellino, un uomo ha ammazzato la moglie con un colpo di pistola al petto, era madre di 4 figli, il marito, un pregiudicato di 50 anni, è fuggito subito dopo il delitto, il movente forse la gelosia. Sono donne all'ennesima potenza e non chiedono niente in cambio, fa discutere l'intervista confessione dell'ex governatore del Lazio Marrazzo, perplessità anche nel mondo dei trans, la testimonianza di una di loro. Lo squalo lo ha straziato, a studio aperto la testimonianza di un turista torinese che ha visto morire un giovane inglese in luna di miele alle Seychelles, era a pochi metri dalla riva, è stato sbranato sotto gli occhi della moglie. L'estate stupisce ancora, passato Ferragosto arriva il grande caldo, temperature sopra i 30 gradi in tutta l'Italia, il record a Firenze, gli esperti avvertono sarà un weekend rovente, scatta l'allarme AFA in 7 città. Prima telefonata di questa sera è quella di Paolo che ci chiama dalla provincia di Macerata, buonasera. Buonasera, salve, grazie per aver richiamato. Ho qualche minuto, spero, è da molto che attendo, ho ascoltato con molto, molto interesse i vostri discorsi. Sì. E volevo, vabbè, innanzitutto volevo complimentarvi con voi perché siete una radio veramente notevole, ai tempi di oggi quasi indispensabili. Però mi sono molto stupito di lei negli interventi che sono stati fatti ieri in una trasmissione. Sono praticamente arrabbiato da ieri, non soltanto con lei, ma sono arrabbiato con... È arrabbiato da ieri, spero che le passi in fretta, perché 24 ore di arrabbiatura sono tante. Prego. Ho paura di no, e capirà anche perché adesso. Praticamente io vivo in questo mondo, in questa nazione, in queste città italiane da sempre, da quando sono nato, e mi domando spesso se chi parla, sempre con ipocrisia vomitevole, continuamente, di questa evasione fiscale come l'unico male italiano per cui le cose non vanno, per cui i servizi non funzionano, è sempre colpa dell'evasione. Quando ci sono dei problemi in Italia, la prima cosa che viene tirata fuori, soprattutto da voi giornalisti, questa è una grandissima delusione, si parla esclusivamente di evasione fiscale. Poi tutto il resto passa in la Chiesa che fa da anni, eccetera, poi tutto il resto passa in secondo piano. E credo che sia veramente ipocrisia allo stato puro. Ma perché lei non ritiene che l'evasione fiscale sia un problema, uno tra i principali, non dico il principale, io non ho mai sostenuto questo, però uno dei problemi principali dell'Italia è l'evasione fiscale, non pensa che sia anche questo? Un esempio terra a terra, ascolta, proprio io sono un artigiano piccolissimo e lavoro da sempre, io lavoro la media ormai siamo a 12 ore al giorno, la nostra categoria, io lo garantisco, è veramente, noi siamo stremati, perché non dobbiamo lavorare, per la famiglia, per guadagnare qualche soldo, per poter far star bene i nostri figli, farli studiare, noi stiamo lavorando per mantenere una quantità di persone che è diventata troppa, questo è il problema italiano, sono troppi quelli che lavorano all'interno di questa struttura pachidermica che è lo Stato, che è una cosa fuori da qualsiasi controllo mondiale. Io non credo che al mondo possa esistere un qualche cosa come questo mostro che hanno creato negli ultimi anni. Sì, va bene, questo è giusto, si possono fare delle distinzioni su chi non riesce a pagare tutte le tasse e invece dall'altra parte, perché è strozzato dal punto di vista della propria attività produttiva, e dall'altra parte invece chi, come sta dicendo lei anche giustamente, dice non le voglio pagare perché non voglio mantenere uno Stato che è diventato troppo ingombrante. Le chiedo però di fare un passo in avanti e di darci un giudizio su quello che avrà letto dai giornali, su quello che fa questa manovra di questo governo in queste ore per diminuire una parte almeno dello Stato, perché ci sono tagli alle province, tagli ai comuni e altre cose. Che, poi però mi dà la possibilità di poter dire qualcosa. No, ma io colleghi, le ho fatto una domanda, però le chiedo di rispondere. Perché, io la rispondo subito, però vorrei parlare anche a nome dei miei colleghi, diciamo... No, ma lei parli per sé, perché lasciamo perdere gli altri. Non parli a nome degli altri, parli per sé, sì. Noi siamo sempre quelli che rovinano l'Italia. No, ma nessuno ha detto questo. Mi scusi, Paolo, però... Sì, facciamo un passo in avanti, perché questo intervento che lei ha fatto poteva valere anche 5 anni fa, 5 mesi fa, 10 anni fa. Oggi siamo al 17 di agosto. Mi dica lei cosa ne pensa della manovra dal punto di vista dei tagli allo Stato. È stato fatto qualcosa o no? Quindi lei pensa che questa manovra possa risolvere definitivamente... No, le ho fatto una domanda, le ho chiesto che cosa ne pensa, non che io penso che possa risolvere, le chiedo allora, che cosa ne pensa. Io ne penso quello che ne penso. pensavo un anno fa, 10 anni fa e 20 anni fa. Cioè, quindi non è cambiato nulla, 6 miliardi di tagli ai ministeri. Sa che cosa cambierà? Cambierà che, siccome si parla comunque di evasione fiscale e di recupero dall'evasione, questi signori non andranno a recuperare l'evasione dalle grandi aziende che prendono... Ma non recuperano nulla dall'evasione. Guardi che nella manovra viene messa a bilancio 1 miliardo di euro di lotta all'evasione fiscale. La manovra è di 50 miliardi di euro. Quindi la lotta all'evasione fiscale non c'entra nulla con la manovra. Sono numeri demagogici, questo è quello che penso. No, sono numeri, punto e basta, non sono demagogici, sono numeri. Non sono così. Demagogici perché no, è tutto incampato per aria, non si riuscirà mai a poter quantificare in modo veramente esatto, perché il problema italiano, secondo me... Cioè saranno ancora di meno di 1 miliardo di euro. Ma guardi, quando si parla di evasione fiscale le posso garantire che le prime cartelle arrivano sempre a noi. Questa è la tristissima realtà. Ma questo è un altro discorso, che la lotta all'evasione fiscale a volte porti con... Tolga a volte, sempre. Va bene, Paolo, Le consiglio di parlare con un suo amico artigiano, mi faccia questa cortesia. No, non c'è bisogno, perché mia moglie è un libera professionista, quindi conosco le vostre problematiche. Paolo, grazie, però lei mi pare che abbia fatto un intervento che... valeva la pena farlo un anno fa, un mese fa, 10 anni fa, 10 giorni fa, ma non adesso, perché secondo me adesso bisogna commentare le cose di adesso. E allora proviamoci. Carlo da Torino, buonasera. Anzi no, abbiamo il traffico perché siamo già lunghi. Carlo, resti in linea, traffico, e rientriamo da lei tra pochissimo. Due messaggi su Facebook, uno relativo alla telefonata che abbiamo appena sentito, dice Rossano: i lavoratori autonomi non ce la fanno più, questa volta davvero, senza di loro le casse dello Stato si svuotano, il danno sarebbe immenso, oltretutto andrebbero a ingrossare le fila dell'assistenzialismo parassitario. Attenzione! E poi Angelo che ci chiede: Calalzo, Bossi annulla il comizio per evitare le proteste dei leghisti. Maurizio, lei che info ha in merito? Io ho le informazioni che avete anche voi, la notizia sarebbe questa: domani era previsto un comizio pubblico di Umberto Bossi a Calalzo di Cadore, dove Tremonti festeggia il suo compleanno, in genere in compagnia dello stesso Bossi e anche di Calderoli. Però stavolta niente comizio, perché il presidente della provincia di Belluno, Giampaolo Bottacin, ha iniziato una protesta leghista, lui, contro i vertici della Lega che hanno avallato i tagli ai comuni piccoli e alle province. Dunque la notizia sarebbe questa, bisogna vedere se sarà confermata, potrebbe essere in qualche modo anche una notizia clamorosa. Carlo, buonasera. Buonasera e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io vi ascolto tutte le sere. Niente, volevo solo dire una cosa, perché in base per quanto riguarda Italia, le regioni, province e tutto quanto. Innanzitutto io sono stato 16 anni in Germania, ho vissuto in Germania fino a 16 anni, e si parla sempre della Germania, di qua, di là. Secondo il mio parere bisogna cambiare intanto la mentalità, che proprio non abbiamo né noi, partendo io il primo italiano, e né i politici. I politici in Germania, oppure il tedesco, e hanno tutta un'altra visualità su quando c'è un problema, si danno da fare tutti assieme, non che la grossa coalizione hanno fatto, hanno tutta un'altra mentalità, devono fare una cosa, e parte già dal più grande, dal politico, parte già che ad esempio si devono tagliare, non so, lo stipendio, diminuire qua, e lo fanno veramente, lo fanno subito, fanno vedere che vogliono fare. Invece vero, chi parla con i politici, che sì, ma vabbè, quello lì però no, da noi non si tocca niente, andiamo a prendere lì, andiamo a prendere là. Le faccio solo due esempi: 30 anni fa c'era già in Germania la targa sui motorini, l'assicurazione, e i punti sulla patente. Sembra che qua, io quando sono venuto in Italia, che avevo 16 anni, sembrava che era tutto in un altro mondo, e io le parlo di 30 anni fa. Io adesso lavoro in un servizio pubblico con i pullman, no? A Torino, e vedo anche nelle nostre aziende pubbliche, che a parte per gli autisti noi che noi lavoriamo, perché i pullman devono girare, ma ci sono tante dirigenti che stanno da una stanza all'altra e non fanno niente. Questo è il problema, secondo me. Deve partire proprio dall'italiano, proprio dalla mentalità. Fin quando non cambia la mentalità... Però è difficile. Grazie Carlo. La mentalità è l'ultima cosa che si cambia. Ci vuole più tempo sicuramente rispetto ad altro. Francesco dalla provincia di Padova, buonasera. Sì, buonasera, sono Francesco. Prego. Brevemente, riguardo l'intervento di Formigoni, che proponeva di vendere le Poste Italiane e la RAI, no? Questi tipi di interventi fatti da politici, insomma dalla nostra classe dirigente politica, mi fanno letteralmente paura, perché non esprimono nulla. cioè un politico che dovrebbe avere delle idee concrete e che butta lì sul piatto queste idee, che sa che comunque non verranno portate a termine, mi fa letteralmente paura. Io ho paura di vivere in un paese così, un giorno si alza uno e dice vendiamo questo, un giorno si alza l'altro e dice vendiamo quest'altro. Io sono un elettore di sinistra e purtroppo non mi sento rappresentato né dai miei che ho votato, né soprattutto da chi ci governa, perché secondo me c'è un problema di credibilità politica. È un problema. Oddio, devo dire profondo. Che la proposta di vendere la RAI, a parte che non è la prima volta che viene fatta l'idea di privatizzare la RAI, in questo caso di venderla per far cassa, insomma, Formigoni, io gliel'ho detto, l'ho messa nell'elenco del si può dare di più, ma prendeteli da un'altra parte, perché sì, gli si può dare una dignità di proposta politica, però chissà quanto tempo ci vorrà, bisognerà convincere un sacco di gente e non sembra proprio una cosa rapidissima da fare. D'altra parte è vero anche che, come hanno detto in molti in queste ore, l'ascoltatore sta parlando forse, che fa? Sì. Pronto? Sì. Sì. Voglio dire, è proprio come diceva lei, se un politico fa una proposta del genere sapendo che non verrà mai portata a termine, né ora né mai, come la riduzione delle province, come la riduzione delle regioni, la riduzione dei comuni, ma che senso ha farci governare da una classe politica? Va bene, però io non ho concluso il mio ragionamento, la conclusione era questa, alla fine poi qualche cosa ne può venire fuori, vediamo il caso delle province, che nel bene o nel male se ne è parlato tantissimo, poi alle strette per la crisi delle borse, tutto quello che volete, però nel decreto c'è entrata la riduzione delle province, quindi insomma stiamo a vedere, grazie. Continua a parlare l'ascoltatore, però passiamo a qualcun altro. Anna Maria dalla provincia di Milano, buonasera. Buonasera, innanzitutto le volevo fare i complimenti, finalmente la Zanzara è tornata, me lo lasci dire, un po' più seria. Grazie. Veramente, no, le faccio un esempio pratico. Tre mesi fa io sono andata a fare gli esami del sangue e ho speso una cifra, 60 euro circa di ticket. L'altro giorno li ho ripetuti, perché dovevo ripeterli, mi hanno chiesto 132 euro e io ho fatto un salto, dico ma siamo impazziti, guardate che voi avete sbagliato, no signora, da 3-4 giorni i ticket sono aumentati, quindi prima cosa la signora Santanchè che dice che nessuno mette le mani nelle nostre tasche, io mi sono spesa 132 euro per fare degli esami del sangue e questa è una prima cosa. La seconda la informo. Io ho un marito disabile al 100%, ho acquistato un doblò, ho fatto mettere il sollevatore che costa 7.000 euro, ho telefonato naturalmente alle ASL, il Dipartimento Disabili, perché di solito a noi spetta il 70% di questa spesa. Sa che cosa mi è stato risposto? Cosa? Visto che non ci mettono le mani in tasca. Che i bandi sono già stati, il bando di febbraio è già stato fatto su 400, do i numeri esatti, 412 persone che hanno chiesto il rimborso del 70%, ne sono stati applicati 206. Io che entro a giugno, perché l'impianto l'ho fatto a giugno, non si sa, dice signora, purtroppo non sappiamo se il bando verrà ancora emesso, quindi io mi cucco 7.000 euro di impianto, ha capito? Perché con questi chiari di luna, eccetera. Ecco perché sono arrabbiatissima io invece dell'intervento di Formigoni, questo grazie signore. Io l'ho detto ai politici che in questi giorni abbiamo ospitato alla Zanzara, politici anche di centrodestra, quindi con responsabilità di governo, ho detto perché vi preoccupate tanto della tassa di solidarietà e mettete in discussione la manovra su questo e nessuno parla dei ticket sanitari, come ha detto giustamente lei, che riguardano milioni e milioni di cittadini per un importo, se non ricordo male, complessivo nella manovra messo a bilancio di diversi miliardi di euro, 6, 7, 8 miliardi di euro, quindi già da questo i ticket sanitari, ripeto, si andrà a prendere moltissimo. Si dirà che non c'erano altre strade, però invece poi quando si parla del contributo di solidarietà sembra che delle altre strade si trovano pur di evitare quel provvedimento. Teodoro da Latina, buonasera. Buonasera. Senta, io sono indignato veramente in una maniera pazzesca col signor Formigoni, perché lui dice gli onesti. Io sono un protestato, sono uno che purtroppo a 53 anni mi è capitata la tegola sulla testa e per campare devo fare lavoro nero perché mi hanno strappato i contratti davanti. Sì. Non sono un disonesto. come il Formigone ha detto, soltanto gli onesti pagano. Se loro sono dei politici che guardano anche i protestati, che ne siamo una marea, e siamo abbandonati a noi stessi, io ho cercato di rimettermi in riga, vado a vedere la legge, devi pagare, se non mi viene data l'opportunità di pagare, come pago? Devo evadere per campare. Pronto? La stiamo sentendo, sì. Ecco, devo evadere, devo fare l'evasore per campare. Mm. Allora questi sporchi politici, essere politici, però non siamo delle persone oneste quando si va a votare, perché ci mandano le letterine a casa. Ho finito, la ringrazio. E grazie a lei, Teodoro. Andiamo a Gianfranco, non è che ci sia molto da commentare, o meglio, lascio agli ascoltatori di commentare la rassegnazione di Teodoro. Gianfranco dalla provincia di Belluno, buonasera. Buonasera, io vorrei esprimere il mio disappunto per le considerazioni che ha fatto il nostro onorevole ministro signor Umberto Bossi nei confronti dei pensionati, dicendo che non si è toccato le pensioni perché siamo dei poveracci o ci tratta da poveracci. Ha usato un'espressione in effetti sì, non molto elegante nei confronti dei pensionati in due occasioni, una volta a Roma, una volta a Ponte di Legno, e ha parlato di poveracci. Bossi dall'altra parte si esprime così, in maniera molto, molto diretta. Lei si è sentito offeso per questa definizione di poveracci o per altro? No, le dimostro che noi non siamo dei poveracci, siamo dei derubati. Perché? Innanzitutto la pensione è un diritto soggettivo e che è tutelato dalle norme costituzionali, dagli articoli 36, 37, 38 e 47 della Costituzione. In più è tutelato, diciamo, ed è nuovamente tutelato da ben 4 sentenze della Corte Costituzionale, l'ultima del 2004, dove ripete che la pensione è una retribuzione differita che serve a dare il sostentamento, il giusto sostentamento al lavoratore che non è più in grado di produrre reddito, sia a lui che al suo nucleo familiare. Io le faccio un esempio banale. Esempio, io parlo in termini concreti, di un prestatore d'opera che in 35 anni ha preso mediamente 750 euro al mese netti, con una pensione, cosiddetta pensione, io la chiamo retribuzione differita, che è un terzo di quello che dovrebbe prendere. Perché questa retribuzione differita, cioè questi cosiddetti contributi che vengono gestiti da un istituto preposto, come prevede la Costituzione, le leggi. Gianfranco, dobbiamo interromperla perché lei ha un passo un po' lento, ma noi invece dobbiamo fare il giornale radio. A più tardi. Numero verde 824 0024 per intervenire in diretta anche questa sera fino alle 20:30. Cari ascoltatori, 349 238 6666, La Zanzara. Siamo anche su Facebook. Allora riprendiamo questa seconda parte di programma intanto con i titoli di Sky TG24. Manovra, nuovo piano per il TFR, subito in busta paga, ipotesi tassa sui capitali scudati. Calderoli contro i calciatori, sono una casta di viziati, paghino un'aliquota doppia. Il testo martedì al Senato, l'iter si annuncia contrastato per le proposte di modifica. Borse, la Tobin Tax non piace ai mercati, in ribasso Londra e Parigi, bene Piazza Affari. Ubriaco e contromano, arrestato per omicidio volontario l'albanese che uccise 4 persone. Napoli, scoperta una clinica per aborti clandestini, era gestita da cinesi. Libia, violenti combattimenti ad ovest di Tripoli, ribelli sempre più vicini alla capitale. Seychelles, polemiche sulla sicurezza dopo il secondo attacco mortale di uno squalo. Calciomercato, la partenza di Eto'o per la Russia è ormai certa, manca solo la firma. Sul set di Woody Allen a Roma, i paparazzi ingaggiati per interpretare se stessi. E ora TG3. La manovra arriva in Senato, l'ipotesi di tassare i fondi scudati, 2% al massimo, ma nella maggioranza crescono i dubbi. L'opposizione: è risibile ridurre quel prelievo, non c'è la volontà politica di colpire l'evasione. Di Pietro, ospite del TG3. L'offensiva dei frondisti del PDL, meno tasse e intervento sulle pensioni. Per Rai Martino, se la manovra non cambia, non la votiamo. Calderoli avverte i calciatori che vogliono far pagare alle società il contributo di solidarietà. Se protestate, pagherete il doppio. Banche contro la tassa antispeculazione chiesta da Francia e Germania. Merkel e Sarkozy, niente fondi a chi è in deficit. Borsa in positivo. File nelle sedi del Banco dei Pegni nonostante il periodo di ferie e cambia il volto di chi va a impegnare i beni di famiglia. E la manovra sposta le feste patronali alla domenica. Anche San Gennaro sarebbe costretto a cambiare la data del miracolo, ma la Chiesa non ci sta. Si può dare di più purché non prendeteli, non li prendiate dalle mie parti i soldi necessari per raggiungere il pareggio di bilancio, per fare la manovra, e l'elenco delle proposte è lungo, è svariato. Si può dare di più, per esempio, dice Formigoni, prendendoli dalla vendita della RAI o anche delle Poste, l'ha detto poco fa ai nostri microfoni. Ci chiede un ascoltatore, Antonio, su Facebook, come mai nessuna coalizione di destra o di sinistra si inserisce nelle proprie proposte la modifica alla finanziaria, l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. C'è anche questo, ed è Giachetti del PD che dice sostituiamolo con un 5 per 1000. Non c'è Giachetti, c'è Giachetti. Qualcuno vuole prendere in considerazione, io lo dico provocatoriamente, ovviamente so che anche all'interno del mio partito questo non è argomento particolarmente amato, però noi se dobbiamo fare delle operazioni di verità, 180 milioni l'anno destinati ai partiti, perché non spostiamo questo finanziamento con un sistema come il regime del 5 per 1000? C'è chi propone invece di andarli a prendere dalla Chiesa, da tutte le agevolazioni fiscali che riguardano proprio la Chiesa italiana. Secondo una stima dell'Unione Europea, che oggi ricorda Filippo Facci sul Libero, sono 4 i miliardi di euro di agevolazioni fiscali. Poi c'è chi, come Calderoli, se la prende con i calciatori. La regola dei contratti dei calciatori è che gli stipendi arrivano al netto delle tasse. Ecco allora che qualcuno tra i calciatori ha mugugnato: beh, questo contributo di solidarietà sopra i 100.000 euro lo pagheranno le società, come fanno per tutte le altre tasse. È arrivato lo stop di Galliani, che dice: no, non se ne parla nemmeno, questa volta i soldi li tirate fuori voi. Allora Calderoli dice: se i calciatori protestano, raddoppieremo il prelievo sugli stipendi dei calciatori. A dire la verità, non si sa come sarebbe possibile fare una legge solo per i calciatori, non è facilissimo immaginarlo, ma insomma si può dare di più purché non da queste parti. C'è anche chi ricorda le spese militari, come l'esponente del PD, Marino. Spendiamo circa 1,5 miliardi l'anno per le nostre azioni militari all'estero e non abbiamo toccato neanche di un euro gli investimenti in armamenti. Noi abbiamo investito 29 miliardi di euro in 121 aerei da caccia, 131 F-35 sono caccia bombardieri e 100 NH-90 che sono elicotteri da combattimento. Anche la Merkel ha ridotto le spese di queste macchine da guerra, perché tagliamo, non possiamo farlo anche altrove, noi, e investire di più in sanità e in ricerca. Tutte proposte degnissime, però insomma sarebbe bello che ogni tanto anche maggioranza e opposizione tentassero di parlare la stessa lingua e di trovarsi d'accordo su qualche cosa. Per esempio, una delle proposte che ha fatto un po' breccia è quella dei capitali scudati, partita dal PD, ha fatto breccia anche nella maggioranza, ci sono esponenti politici che si sono detti favorevoli e si sta ragionando su una percentuale da far pagare ai capitali rientrati con lo scudo fiscale. Sentiamo il sindaco di Verona su questo, Flavio Tosi. E del resto, quando fai questo tipo di manovre colpiscono le pensioni, o gli enti locali, o i redditi, quindi IRPEF eccetera, o i patrimoni. L'unica cosa che non hanno colpito seriamente sono i grandi patrimoni, che forse era la cosa dalla quale cominciare, perché tagliare i comuni, tagliare le pensioni e tagliare i redditi era la cosa da cercare di evitare. Basta pensare che con lo scudo, con i due scudi, sono rientrati 200 miliardi e hanno pagato il 5% di tasse, basterebbe applicare la patrimoniale sul capitale rientrati con lo scudo, ne trovi di risorse e copri tutta la manovra senza problemi. Nella Lega però si segnala il caso, e lo solleva il Fatto Quotidiano, del possibile cancellazione del comizio di Umberto Bossi domani a Calalzo di Cadore, in provincia di Belluno, perché il presidente della provincia di Belluno, Bottacin, della Lega, è sul piede di guerra perché la Lega ha avallato i tagli ai comuni e alle province che a loro non vanno giù. E allora, per evitare le contestazioni al leader stesso della Lega, Bossi, che tutti gli anni passa questo giorno domani a Calalzo di Cadore per il compleanno di Tremonti, sarebbe stata annullata la presenza pubblica di Bossi. Però questa è una notizia che ancora non abbiamo confermato, ma basterà arrivare a domani per vedere se davvero ci sono questi malumori in casa della Lega. Chiudiamo l'elenco del si può dare di più, purché li prendiate da un'altra parte, con la proposta del sindaco di Altopascio: prendiamoli dagli incassi della prostituzione. Se noi facciamo un conto rapidissimo, fatto di stime che le prostitute in Italia sono da 70.000 a 100.000, se lei può considerare che su queste 70.000 facciamo un utile di 100 euro il giorno, lei provi a fare due conti e le moltiplichi per i 365 giorni e vediamo cosa viene fuori, no? Daniela Santanchè invece dice: per la prima volta non abbiamo fatto pagare agli italiani, non abbiamo messo le mani nelle tasche degli italiani, un'opinione per la verità contro la quale insomma già diversi ascoltatori, dopo aver sentito questo contributo audio della Santanchè, si sono scagliati. Però lei dice: abbiamo per la prima volta invece tagliato i costi della politica, sentiamola. Questa manovra non incide nelle tasche degli italiani, incide. Abbiamo cercato di fare le ceti medie alti, non toccando i ceti bassi, non toccando i servizi, non toccando la sanità, non toccando la scuola, non toccando la ricerca, non toccando la cultura, certo. Abbiamo invece per la prima volta veramente fatto dei grandi tagli alla cosiddetta casta, 52.000 poltrone in meno. 52.000 poltrone in meno, e però qualche dubbio c'è, perché nel decreto allegato alla manovra, come ricorda oggi Franco Bechis proprio sul Libero, alle voci dei tagli ai costi della politica, comuni, province e poco altro, queste sono le misure nel decreto, non ci sono le cifre. Il titolo: la casta, i tagli alla politica, guadagni previsti 0 euro. La relazione tecnica al decreto conferma la paura che la stretta sulle poltrone resti solo sulla carta. Le riforme sono ancora in forza e quindi i risparmi non vengono prudenzialmente quantificati. E anche questo è un fatto. Ancora la Santanchè, però, a proposito, avete sentito qualche giorno fa l'intervista di Montezemolo che dava suggerimenti al governo su come intervenire, un'intervista al Corriere, e così la Santanchè se la prende con Montezemolo. Devo anche dire agli italiani: facciamo attenzione, perché se Montezemolo facesse l'allenatore di una squadra di calcio oppure il CT della nazionale, farebbe perdere l'Italia, perché non credo che la sua vita sia stata costellata da successi. Bisognerebbe andare a leggere Romiti, quello che ha detto. Bisognerebbe andarsi a fare un giro nella Campari, quando lui è stato alla Campari. Io credo che insomma gli insuccessi che Montezemolo siano tutto gli occhi di tutti, che adesso venga a darci delle lezioni, penso. Ma Santanchè, ma come? Gli insuccessi di Montezemolo sono sotto gli occhi di tutti, basta andare alla Campari. Ma che c'entra la Campari? Se fosse allenatore perderebbe tutto, ma lui è stato presidente della Ferrari, ha scelto l'obiettivo sbagliato, la Santanchè, perché Montezemolo, popolarissimo tra gli sportivi italiani, non so più quanti mondiali di Formula 1 ha vinto con la Ferrari, dunque un esempio peggio di questo la Santanchè non lo poteva trovare. Ancora Santanchè sulla questione moschee che riguarda la città di Milano, perché sapete la giunta Pisapia ha deciso non tanto di costruire una moschea, ma di fare dei piccoli luoghi di culto nei quartieri. Eccola lei scatenata contro le moschee. Continuerò la mia battaglia senza paura, perché voglio che mio figlio, come tutti i figli d'Italia, siano ancora degli uomini liberi, cosa che col fondamentalismo islamico questo non sarebbe possibile. Però Pisapia... Quindi le moschee bisogna chiuderle, non aprirle. Così la Sant'Anchè da Klaus Davi fa un'equivalenza straordinariamente, secondo me, sbagliata tra le moschee e il fondamentalismo islamico, come se fossero la stessa cosa, cioè a pregare ci vanno solo i fondamentalisti, forse non è proprio esattamente così. Sant'Anchè ancora se la prende con Pisapia, sempre sul tema delle moschee. Pisapia dovrebbe forse ricordarsi, anche se non faceva il sindaco, cosa ha rappresentato per i milanesi di Ale Jenner, quanto odio c'è nelle loro prediche nei confronti di noi occidentali. Pisapia dovrebbe ricordarsi che nelle moschee le donne non possono entrare. Pisapia dovrebbe ricordarsi che le donne sono assolutamente in balia della sottomissione del clan maschile della famiglia. Pisapia dovrebbe ricordarsi delle lapidazioni. Pisapia dovrebbe ricordarsi di come le donne vengono maltrattate dai fondamentalisti islamici. Pisapia, tutte queste cose forse se le dimenticate. Pisapia, Sant'Anchè, però tu dovresti sapere che invece le donne nelle moschee ci possono entrare come e pregare. Questo dovresti saperlo se ti occupi di moschee. D'altra parte, non per dire che la condizione femminile nel mondo islamico sia delle migliori, però... se vogliamo dire le cose, diciamole giuste. Donne nelle moschee ci possono entrare, Pisapia, Sant'Anchè, ci possono entrare e possono anche pregare. E quindi, insomma, vabbè, lasciamo perdere. 19:26. Adesso riprendiamo con gli ascoltatori all'824-0024. Il tema che abbiamo lanciato è quello del si può dare di più, purché li prendiate da un'altra parte i soldi per la manovra economica. Marcello da Roma, buonasera. Buonasera. Infatti è questo, il benaltrismo, no, malattia italiana. Io sono un liberale, per cui preferisco fare tagli allo Stato piuttosto che aggiungere tasse che sono veramente alte. Detto questo, volevo far riflettere su questo, cioè l'italiano è una persona abbastanza individualista mediamente, cioè pensa giustamente al suo orticello, alla sua famiglia, e tant'è che noi siamo il regno delle piccole imprese. Il problema dell'italiano cos'è? Che si fa fregare dalla politica, che ci mette gli uni contro gli altri. Mi spiego cosa voglio dire. La politica cerca di dare il contentino alle varie categorie. Per esempio abbiamo i tassisti con le licenze bloccate, i farmacisti con le licenze bloccate, gli avvocati con le tariffe minime, i notai, eccetera, eccetera. Tutti quanti hanno il loro piccolo regalino dallo Stato, e tutti quanti sono liberali a parole, tranne per il loro orticello. E questo vale anche per tutti, perché vale per i politici. Formigoni poco fa ha detto facciamo i tagli, però non li facciamo al comune, non li facciamo alla politica, non li facciamo alla chiesa, e così tutti gli altri. E vale anche, bisogna farsi l'esame di coscienza, per anche i singoli consumatori, contribuenti, perché se la mamma invece di volere la mensa scolastica, il pomeriggio scolastico a scuola, dicesse voglio lo Stato che costa la metà, e forse avrebbe in tasca il doppio dei soldi, potrebbe pagarsi lei la mensa che vuole o quello che vuole il pomeriggio, l'anziano potrebbe pagarsi l'accompagnatore, e il singolo cittadino potrebbe avere più soldi in tasca e fare ciascuno le scelte che vuole senza problemi di liti fra una categoria e l'altra. Va bene, grazie. Grazie anche a lei. Andiamo a Cristian che ci chiama da Rimini. Buonasera. Allora, io sto seguendo la trasmissione dall'inizio, sì. Sono abbastanza d'accordo con la maggior parte degli interventi che ci sono stati fatti. Io volevo soffermarmi su una cosa, perché alla fine era quello dove tutti si aspettava di più, cioè dai tagli dei costi della politica, il capitolo della finanziaria riguardo, sì, a questo. E come al solito i politici hanno fatto tanto fumo, tanti programmi, e poi alla fine di arrosto ci sarà poco, perché l'abolizione dei comuni sotto i 1000 abitanti e di alcune province, poi bisognerà poi alla fine vedere quante davvero ne riusciranno ad eliminare, alla fine probabilmente non sarà quello lo scossone che serviva per però, davvero. Sì, io adesso invito lei e anche gli altri ascoltatori però a non fare anche noi il benaltrismo che poi critichiamo nei politici che cercano sempre altre strade, perché stiamo con gli occhi alla finestra, staremo a vedere, però se se verranno approvate queste misure, l'accorpamento dei piccoli comuni o l'abolizione delle province più piccole, è comunque un passo nella direzione auspicata da tutti mille volte. Per cui su questo quantomeno bisogna anche avere la fermezza di rimanere sul punto e vedere, stare a vedere. Non lo so, Christian, se è d'accordo o se in lei prevale il pessimismo cosmico. Christian? No, allora il problema è questo. Io sono d'accordo che, per esempio, le province non andrebbero eliminate solo quelle, ma andrebbero eliminate tutte. Il problema invece è sui comuni, perché secondo me i comuni hanno sempre rappresentato l'identità locale per tutti quanti. Le faccio un esempio. Io sono comunque di origine campana. Tufo, che è una località che per tutti è abbastanza conosciuta, soprattutto per il vino. Io la conosco, sì. Tufo è dove si produce il greco di Tufo. Che succede? Andrà cancellata perché è un comune al di sotto dei 1000 abitanti. Sì, però attenzione, non è che viene cancellato il... Sì. Sparisce il consiglio comunale, resta il sindaco, certo. Cioè, ci sono dei distinguo da fare, no? E poi del resto anche Barolo, lei ha parlato di Tufo, e Barbaresco sono due paesini in Piemonte che rischiano anche questi di essere accorpati perché sono sotto i 1000 abitanti, e però scusate, ma da qualche parte forse i comuni non sono la misura azzeccata, però almeno le province sì. Christian, 30 province abolite dalla manovra, non è una buona notizia? Tutte le province, perché guardi, un sindaco di un comune sotto i 1000 abitanti prende, sì, 500 euro di diaria ed un consigliere 20 euro. Non sono questi i tagli della politica. Va bene, grazie me. Christian, io mi accontento di molto meno di lei, però è una questione soggettiva a questo punto. 19:30, borse, e poi di nuovo tra pochissimo 824 0024. Buonasera, ma il governo che toglie le festività crede, con la scarsità di lavoro che abbiamo nelle aziende, fatturati in calo del 15-40%, di recuperare ore di lavoro e aumento del PIL? Ci chiede Enrico, che ci ringrazia, al 349-238-6666. C'è anche una notizia che, della verità, non so se le cronache parlamentari di oggi su questo punto sono state chiare, però quando si dice il decreto approva al Senato, si dice... il decreto, la manovra, insomma, economica, approda al Senato. Si dice questo: 6 minuti di seduta e 11 senatori presenti in sala. Questo il resoconto dell'assemblea odierna di Palazzo Madama, convocata per incardinare la manovra economica da 45 miliardi di euro. Il Senato ha archiviato piuttosto rapidamente la pratica ed è naturalmente tornato in vacanza. È vero che i lavori apriranno la prossima settimana. Però insomma, ecco, giusto una precisazione: il decreto approda al Senato vuol dire questo. 6 minuti, 11 senatori presenti. Manfredo da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Prego. No, niente, io sono rimasto abbastanza indignato da questa notizia dell'accorpamento delle feste laiche la domenica, perché l'Italia è uno stato laico, non è uno stato confessionale. Allora perché non si spostano le feste religiose alla domenica? Magari chi giustamente poi vuole santificare le feste comandate dintorni si piglia un bel giorno di ferie, perché voglio dire, l'Italia è oramai composta non solo da cattolici, è composta anche da laici, da musulmani, da ebrei, da pastafariani e chi più ne ha più ne metta, anche scientologi. Per cui veramente una cosa mi indigna, perché io sono laico, lo Stato è laico. In più, prima sentivo Formigoni, non mi ricordo dove ho letto da qualche parte, però praticamente sembra che la Chiesa spenda di più per la pubblicità dell'8 per mille di quanto poi effettivamente di quell'8 per mille devolve per i cosiddetti poveri. Io il mio 8 per mille lo do a Valdesi, perché perlomeno lavorano, anche le donne possono essere sacerdote, non discriminano gli omosessuali, non discriminano quelli delle altre religioni, tant'è vero hanno dato il funerale a Welby, che essendo suicida per la Chiesa non poteva essere, non potevano essere fatte le esequie con i crismi del cattolicesimo, mentre poi invece poi lo danno ad altra gente ben peggiore. Perché niente, grazie Manfredo. Un'ultimissima, sì, cosa, in più darebbe un bel taglio a tutta una serie di piccole industrie che campano sui turismo, sui ponti e dintorni. Cioè, questa è un'argomentazione che io personalmente condivido, nel senso che si sa che i ponti contribuiscono a creare dei piccoli spazi di vacanza in assenza magari di grandi vacanze, le vacanze per un paese turistico, a vocazione turistica, turistico come l'Italia, e ricordiamocelo sempre, sono un punto. Ma infatti le varie Confederalberghi, eccetera, sono da questo punto di vista non poco perplesse su questo provvedimento. C'è un ascoltatore, Agnello, che ci scrive al 349-238-6666 a proposito delle località che abbiamo citato, i piccoli comuni, dice: attenzione, Tufo e Barolo nelle loro denominazioni non scompariranno ma diventeranno istituzionalmente delle frazioni di un altro comune. È giusto, è vero, questa precisazione è doveroso ricordarla, anche se non saranno comuni non scompariranno, quindi è sbagliato dire scomparirà Tufo o scomparirà Barolo, che sarebbe naturalmente un peccato, no? Questo è evidente. Stefano, dalla provincia di Monza, buonasera. Sì, buonasera a lei. Però io chiamo tornare un po' indietro negli anni, nel senso che io sono nato a Verbania, ancora sì. Oggi abbiamo una casa lì, e la nostra bella provincia pare che se ne debba andare via. Io ricordo nel 92, inizio degli anni 90, la grande battaglia che abbiamo fatto per avere la provincia, ma non per dare le poltrone ai politici, l'abbiamo fatta per avere dei servizi. E non dei servizi amministrativi, l'abbiamo fatta per avere il comando provinciale dei carabinieri, l'abbiamo fatta per avere la questura, l'abbiamo fatta per avere i vigili del fuoco, il comando provinciale. Ora, se cancellare la provincia significa semplicemente togliere il consiglio provinciale e mandare togliere un po' di poltrone, va bene, ma ridimensionare i servizi, non sto parlando del catasto o servizi amministrativi che possono essere sì, guardi, io credo che non c'entri nulla la questura e il comando provinciale con il decreto che invece parla delle province in quanto proprio consigli provinciali elettivi, cioè gli eletti e le giunte. Credo che su questo non ci sia nessun margine di ambiguità. Non lo so, lei ha notizie diverse, Stefano? Qualche amministratore locale ha cominciato a indicare questa problematica e non è chiaro, io ho letto il decreto attentamente, non è chiara la questione. Va bene, grazie. Allora, sì. Sarebbe veramente incredibile. Sì. Ne parliamo anche con il nostro prossimo ospite che è Angelo Vaccarezza, presidente della provincia di Savona, manco a farla apposta, parliamo di province e abbiamo il presidente della provincia di Savona, buonasera. Buonasera, in fase di accorpamento. In fase di accorpamento, come si sente? Un po' accorpato? Sì, mi sento in un momento di transito. Noi siamo una provincia transgender. Senta, ma anche lei si mette nella lista, nell'elenco di quelli che dice prima di abolire la mia provincia dovete passare sul mio corpo? No, io dico diverso. Io dico insomma che bisognerebbe evitare di fare le leggi d'agosto che mi pare faccia troppo caldo e non aiuta il pensiero lineare di coloro che legiferano. E poi bisognerebbe finirla ogni volta che abbiamo un problema di conto, di fare sulla pelle degli altri i conti, perché questa manovra non risolve un problema strutturale, questa manovra fa cassa. Allora una manovra che fa squisitamente cassa, dal mio punto di vista, non dovrebbe andare a modificare l'impianto amministrativo dello Stato. Beh, però mi scusi, quindi, Presidente, fa cassa... è proprio quello di cui hanno bisogno le casse vuote dello Stato, su questo mi pare che... Il problema di far cassa prendendola sempre con la trincea e quasi mai, anzi possiamo dirci serenamente, mai con lo Stato maggiore, è un modo un po' strano di far cassa in questo paese, perché vedere i ministri della Repubblica in maniera molto così goduta raccontano il taglio di poltrone e sommano tutte le poltrone come se un presidente di provincia e un onorevole fossero due cose paragonabili. A chi come me fa da 23 anni amministratore, un pochettino è facile girare le scatole, ecco, mettiamola così per non usare altri termini. Però nel decreto c'è anche la riduzione dell'indennità per i parlamentari che hanno il doppio lavoro. Si parla di ridurre anche lì il numero dei parlamentari, anche se ce ne vorrà di tempo. Hanno inserito che chi ha fatto due mandati va in pensione a 65 anni, perché lei sa che i parlamentari della Repubblica vanno in pensione a 65 anni come parlamentari se hanno fatto un mandato. Se hanno due mandati accorciano di 5 anni l'età pensionabile. Mi rendo conto che fare il parlamentare sia più pericoloso che fare il parlamentare nel Sulcis, però forse varrebbe la pena che anche loro rispettassero, come tutti gli altri, l'età pensionabile, visto che l'argomento mi pare molto caldo. E poi gli amministratori, quando parlo di amministratori parlo di tutti gli amministratori, comunali, provinciali, non regionali, perché quelli già fanno parte della dello scatto ulteriore sono quelli che, lasciamo perdere le indennità che prendono, perché non voglio fare un discorso di indennità, ma finito il loro mandato tornano a fare il lavoro di prima, finito di fare gli amministratori, l'unica cosa che possono avere è essere chiamati a rispondere di delibere che hanno approvato e che hanno creato dei danni patrimoniali all'ente, senza percepire né benefit né altro e soprattutto niente pensione. Ecco, quando si tagliano le poltrone, bisognerebbe anche spiegare quante di queste poltrone generavano una pensione vitalizia e quante invece generavano il lavoro di un mandato e li finiva. Senta però, Vaccarezza, ma non è che, qui siamo alle solite, mentre lei parla e se la prende coi politici, perché dal suo punto di vista ingiustamente se la sono presa con voi, i cittadini che ascoltano dicono: ecco l'ennesimo presidente della provincia che vuol fare il furbo e non vuole sottostare a una razionalizzazione dei costi che, volente o nolente, tocca anche il suo orticello. Io ho fatto una proposta del tutto diversa, dato che in Liguria, sì, rispetto alla sciocchezza italiana siamo arrivati al paradosso, perché in Liguria su quattro province ne vengono sciolte tre e quindi arriviamo ad avere una provincia sola che è Genova. Quindi avremo l'ente regione grande come l'ente provincia in una regione, in una terra complessa come quella della Liguria. Lasciamo perdere, che mi piacerebbe sapere dove sono andate a finire le città metropolitane, perché mi ricordavo che l'inizio della razionalizzazione virtuosa della spesa era: eliminiamo le province nelle aree metropolitane perché hanno poco senso. Adesso siamo arrivati ad avere le province in Liguria solo in area metropolitana. Io ho detto: se però le province di Savona e Imperia devono sparire perché così si è deciso, va bene, lo accettiamo, però chiediamo di essere annessi alla provincia che scegliamo noi. Visto che ci hanno messo il cappio al collo, ci lasciano almeno scegliere il ramo a cui andiamo a attaccare la fune. E qua arriva il colpo di scena, perché voi proponete di andare con Cuneo. Di andare in un'altra regione. In questo momento in cui finalmente si parla di macro regioni, di aree omogenee, si dicono delle, sì, cose. Sì, però anche... prima che lei finisca questa argomentazione, che secondo me è un po' fantasiosa, io glielo dico, Vaccarezza, le dedichiamo per un attimo questa canzone che non so se lei conosce, dedicata proprio a Cuneo. Dimmi qual è il luogo, il centro del mondo, anima di metropoli, asfalto profondo. E poi il museo civico, il museo ferroviario, la camera di commercio, il consorzio agrario. E questo non è tutto, e tutto è ancora niente. Città del futuro, passato e presente, questa è... Presidente Vaccarezza, lei non è il primo evidentemente a interessarsi a Cuneo, cioè ci sono motivi di attrazione, ma perché voi volete andare a finire... Ha fatto anche il militare Totò. Sì, ma cosa c'entrate voi con Cuneo però, mi scusi, niente, voi siete comuni di mare, Cuneo in Piemonte. Dal punto di vista economico noi abbiamo integrazioni con Cuneo che non abbiamo con Genova. Cuneo è il retroporto del porto di Savona che oggi sta diventando, ahimè per chi ci ha creduto poco, il porto maggiore dal punto di vista dei traffici dell'intero Alto Tirreno, visto che fra poco saranno investiti 1,5 miliardi di euro proprio nel porto di Savona Lado. E Cuneo è il nostro sfogo naturale, la nostra porta verso l'Europa e verso l'economia. Allora potete conquistare fino a Torino, perché fermarvi a Cuneo? Cioè potete proseguire, perché di questo passo... Le Alpi Marittime si integrano tra province di Savona, Imperia e Cuneo, e non è un progetto che nasce oggi, è un progetto che dal punto di vista economico, come direbbe una persona a me cara, togliendo l'audio e guardando solamente le cose che avvengono, si vedrebbe che questa macro regione già funziona. Ma non è che non volete andare con Genova semplicemente perché Genova è amministrata dal centro-sinistra e voi siete di centrodestra? Ma assolutamente, noi non vogliamo andare con Genova perché Genova non ha nessuna intenzione di investire nel ponente di questa regione, ma credo che la stessa cosa gliela direbbe il presidente Fiasella. Però ecco, io quando lei dice così, con, sì, quando lei dice, sì, sì, quando lei dice così, ecco, io impazzisco perché la Spezia vuole andare con Massa Carrara, lei ha paura che Genoa non voglia investire su Savona, ma non è che è proprio questo il male dell'Italia? Ora, con tutto rispetto per voi e le vostre proposte che naturalmente no, hanno la dignità, però non è che ci vuole proprio una, un minimo di razionalizzazione, di centralizzazione, sì, delle idee. Allora, ma se ma si investe su Genoa, sul porto, non si investe su Savona, perché altrimenti diventano investimenti che si annullano. Come è successo con gli aeroporti lombardi, ricordiamoci questo, perché la crisi di Malpensa, è stato detto più autorevolmente che da me e da altri, è derivata proprio dal proliferare di mille aeroporti, ogni città voleva il suo. E allora, le ripeto, la cittadino che ascolta pensa esattamente questo. Qui si continua a voler fare, non voglio dire i furbi, ma insomma a non voler guardare il problema che poi... Che poi, Presidente, il problema è che qui da qualche parte bisogna tagliare e invece voi... Allora, le chiedo una cosa. Abbiamo tutti applaudito quando hanno tagliato le comunità montane. Le comunità montane si occupavano del vincolo idrogeologico. Sono state tagliate le comunità montane, non sono state date risorse a nessuno, personale a nessuno. Di questa funzione oggi non si occupa più nessuno. Cioè, va bene tagliare. Però se un ente è esistito fino ad oggi, o abbiamo tenuto un ente inutile in piedi... Può darsi che abbiamo tenuto... è la valutazione che viene fatta da moltissimi. Molte province sono enti inutili, bisogna rassegnarsi forse anche a questo e cambiare punto di vista. Io non dico che sia la provincia di Savona, perché sennò sembra che me la prendo con lei. Però come valutazione di ordine generale forse è possibile che sia così. Se moltissimi avessero oggi una pratica che ha bisogno... Sì. Di un parere rispetto al vincolo idrogeologico e l'aspettassero 2 anni al posto di 6 mesi. In quei 2 anni, non facendo un investimento, mi permetto, visto che va molto di moda, non facessero girare l'economia, si renderebbero conto che chi ha tolto le comunità montane forse avrebbe dovuto pensare prima a chi assolveva le funzioni. Però non mi pare che l'esempio che lei abbia fatto, quello del dissesto idrogeologico, sia un gran bel esempio, Presidente Vaccarezza. Perché... La gestione del vincolo idrogeologico. Lo so, ma il tema è quello, e la Liguria, per esempio, ogni anno ci sono frane, ci sono casini di tutti i tipi, però ci sono anche le province, quindi la gestione del vincolo è un'altra cosa, sì. È una cosa su cui si esprime parere, sì. Non esiste più l'ente. Se domani mattina cancellassimo le province d'Amblè, l'ente bisognerebbe semplicemente sapere le funzioni di cui oggi la provincia si occupa a chi passano, vengono centralizzate a Genova, quindi funzioni che sono la provincia in quanto ente presente sul territorio vengono centralizzate a Genova. Se questo non è il problema, va bene. Va bene, ma magari su questo possiamo essere d'accordo e non c'è nulla di male. Però a Cuneo avete chiesto se sono interessati ad annettersi Savona Imperia? Cuneo non sono interessato ad annettersi con Savona Imperia, ma noi lavoriamo già talmente tanto con loro che di fatto, insomma, questa cosa a tutti da noi è parsa molto naturale. Infatti io ho chiesto e sto continuando a chiedere, e qualcuno prima me lo dirà, come si può indire il referendum. Perché se loro vanno avanti con l'idea di un accorpamento, quindi se annientano l'esistenza delle province nel ponente Ligure, continuo a dire, noi abbiamo e vogliamo poterci esprimere su quale sarà la provincia che trasformiamo. E le assicuro che non sarà Genova. Va bene, grazie Presidente della provincia di Savona, Angelo Vaccarezza, grazie. Grazie a voi. Grazie, buona serata. Facciamo così, aboliamo tutto, comune, province, regioni, poi ognuno decide di andare dove gli pare. Splendida città nel Piemonte, col sole di fronte, parlo di Cuneo. Cuneo, New York, City, New York. Ti prende il corpo e la mente, non puoi farci niente. Cuneo è irresistibile, Cuneo. Totò a Cuneo, provincia del Piemonte, dove confluiscono i fiumi Stura e Gesso, servita dall'aeroporto. È vero, ci sono, io ho controllato, ci sono i fiumi Gesso e Stura. Ovvero Cuneo Vecchia, per quanto Cuneo Nuova non è che fa cagare. E poi il museo civico, il museo ferroviario, la camera di commercio, il consorzio agrario. E questo non è tutto, e tutto è ancora niente. Città del futuro, passato e presente, questa è Bisio e Cortellesi, Cuneo. E allora andiamo invece ai nostri ascoltatori che ci aspettano all'824 0024. Giuseppe da Firenze, buonasera. Buonasera. Io in questo marasma della crisi e della manovra relativa, la cosa peggiore che sto sentendo è l'onorevole Crosetto. Veramente incredibile che il sottosegretario alla difesa... Cosa ha fatto Crosetto di male in tutto questo marasma? È semplicemente in malafede. Il signor Crosetto, che sa benissimo quanti sprechi ci sono nelle forze armate, nelle forze dell'ordine e via cantando, va a cercare altrove, proprio come nel leitmotiv della vostra trasmissione. Sì. Va a cercare altrove. Lui in 10 anni non si è accorto che sono stati centuplicati generali e ammiragli. Migliaia di colonnelli sono stati sparsi. Sa cosa le direbbe Crosetto? Le direbbe che lui è sottosegretario alla difesa non da 10 anni ma da 3 anni, quindi risponde solo per quello, che è la risposta tipica di tutti però i politici. Sì, lì dal suo amico Crociani è venuto a dire che rinuncia all'auto blu. Ai suoi ammiragli, ai suoi generali centuplicati, gliel'ha detto di non usare l'auto blu? Perché noi abbiamo adesso ogni capoluogo di regione è passato negli ultimi 10 anni da un generale di brigata per ogni arma e corpo, ripeto, per ogni arma e corpo, si è passati da un generale di brigata a 4-5 generali per ogni arma e corpo. Ma lei come fa a sapere queste cose? Perché sono dell'ambiente. È dell'ambiente. E certo, basta prendere l'elenco telefonico e si vede cosa c'è nelle forze armate di ogni capoluogo di regione. In ogni regione che è stata fatta di quelle che si vorrebbero eliminare, prima c'è un capitano, sempre parlo di ogni arma e corpo, un capitano e un tenente, adesso c'è un colonnello, un tenente colonnello, un maggiore, un capitano e un tenente. Praticamente a 2 ufficiali sono stati messi 3 ufficiali superiori e 3 inferiori. Queste cose tutti graduati e nessun soldato. Grazie. Sì, grazie Giuseppe. Sì, grazie. Voleva aggiungere qualcosa, mi pare che avesse detto quello che voleva dire. No, io sì. Devo dire ancora che ci sono 4 polizie in mare, nonostante sia stata istituita la Guardia Costiera. La Guardia Costiera nel 94 doveva, il disegno di legge, cancellare le altre polizie. Invece poi alla fine sono rimaste tutte. Ci abbiamo 4 polizie marittime in mare, mi dica lei in quale altro paese del mondo una cosa del genere. Va bene, e bisognerebbe semplificare anche questo, è banale dirlo, ma è vero sicuramente, poi bisogna andare a vedere nei termini di ogni questione, ma insomma noi abbiamo scherzato col presidente della provincia di Savona che vuole andare a Cuneo, ma insomma il tema è ineludibile. Pensare che abbiamo anche un ministro della semplificazione che ha fatto falò di leggi qualche tempo fa, però forse la mole di lavoro è eccessiva per un ministro solo. Andiamo a Giulio da Messina, buonasera. Buonasera, guardi, l'ascoltatore di prima ha sfondato una porta aperta, perché sembra un discorso, forse lei sorride un po', ma ha ragione da vendere. Sì. Perché i corpi di polizia sono 5 in Italia, e guardi che è veramente un ufficio complicazioni affari semplici. Ricordiamoli quali sono, così facciamo... La polizia, carabinieri, carabinieri, guardia di finanza, guardia forestale e polizia penitenziaria. Mi dica lei se è una cosa normale che lei esce per strada e viene fermato da 5 forze di polizia differenti. Sì, le stesse forze di polizia lui si ritrova a mare. Vabbè, però scusi, in questo caso sono funzioni che qualcuno deve pure assolvere, no? Poi... Certo che se si moltiplicano i corpi si moltiplicheranno anche gli apparati, questo sì, però non è che si possono abolire queste funzioni alle quali i 5 corpi di polizia, come dice lei, assolvono, se no aboliamo tutto, aboliamo direttamente lo Stato e facciamola finita. No, guardi, io non parlo di abolirle, parlo di unificarle e gestirle da meno persone, meno dirigenti. Se lei sicuramente parlerà con un generale della finanza, dirà che la finanza è essenziale, ma non perché la finanza è essenziale, perché lui gli serve il posto da generale. Ma se la guardia di finanza venisse accorpata, non so, all'agenzia delle entrate, il cittadino sicuramente avrebbe dei benefici in più, perché snellendo la pubblica amministrazione, guardi che si combatte pure meglio l'evasione. Ne posso fare tanti esempi. Va bene. Grazie. Andiamo a un altro ascoltatore, Mirko, che ci chiama da Modena. Prego. Buonasera, intanto i complimenti per la trasmissione. No, le permetto che forse il mio intervento scusi, sarà leggermente polemico, ma non nei vostri confronti, nel discorso che riguarda le province e l'abolizione. Una cosa che mi ha lasciato abbastanza perplesso, anche mi sono letto quello che è il decreto di questa meravigliosa manovra, casualmente da 36 le province che non vengono più eliminate diventano 27 e casualmente sono state escluse, caso strano, Sondrio e Belluno. Gestite diciamo comunque di della Lega. La cosa detta dal ministro Calderoli, che dal 2008 continuava a fare questi meravigliosi manifesti, dobbiamo abolire, aboliremo tutte le province, beh, un pochino di contraddizione mi pare che ci sia. Lei cosa ne pensa? Non so che cosa ne penso, è difficile, sono stati usati dei criteri, è stato prima detto sotto i 300.000 abitanti verranno abolite le province, poi se non ricordo male è stato aggiunto il criterio della superficie e allora grazie a questo criterio, che però è un criterio oggettivo, che non è che riguarda Sondrio o Belluno, ma riguarda una valutazione di superficie di provincia, e allora sono state escluse alcune province, tra cui Sondrio, che è quella del ministro Tremonti. Secondo Mastella è questa l'origine della norma, non abolire la provincia di Tremonti, e anche Belluno, che è una provincia della Lega. Ce ne sono altre che sono amministrate da altre partite, da altri colori politici, quindi certo si può eccepire sul ricorso a quel criterio lì della superficie, che ha poi avuto queste conseguenze, tra cui quella di escludere Sondrio. Però è una questione di criteri, non ci può essere in questo una soggettività. Poi magari. Sono stato un attimino maligno, però. Sì, no, esatto. Dico, il mio riferimento era semplicemente in effetti dal 2008 che avevano detto che avrebbero eliminato le province, ma questo è un problema. Credo che in Italia sia stato promesso da destra, sinistra, centro-centrodestra. Però noi ci siamo lamentati fino a una settimana fa del fatto che questo provvedimento era stato totalmente abbandonato. Si potrà dire che è stato ripreso solo e soltanto perché eravamo in piena crisi di borsa, crisi economica, altrimenti il governo, che pure l'aveva promesso in campagna elettorale, non l'avrebbe fatto. Però il provvedimento, seppure parzialmente, è stato ripreso e adesso stiamo a vedere. Secondo me questo è un provvedimento che nell'ottica di tutto quello che abbiamo chiesto fino ad oggi alla classe politica di fare, cioè abolire anche le province, oggi è un provvedimento che va sostenuto più che essere criticato. Può essere migliorato, ma non può essere abbattuto sulla soglia del benaltrismo o del si può dare di più purché sia da un'altra parte. 19:58, siamo a una breve pausa e rientriamo tra pochissimo. E allora rientriamo con i vostri interventi. Nicola da Bari, buonasera. Buonasera. Prego. Eccomi qua. Quanti argomenti, tutti interessanti. Buonasera a tutti. Io vorrei cominciare col rispondere a quell'ascoltatore che si indignava delle parole del ministro Bossi sui pensionati. L'ascoltatore, è un mio pensiero, farebbe bene a rivolgere la sua indignazione a un altro argomento, sul come mai, sul perché un semianalfabeta diventi ministro degli affari costituzionali. Beh, Bossi non è un semianalfabeta, però. Prego? Bossi non è un semianalfabeta, non mi pare che sia un semianalfabeta. Vabbè, fa la parte dell'urlatore, quello sì. Probabilmente saprà anche leggere e scrivere, probabilmente sì. Probabilmente sì. Però non dobbiamo. Anche in questo caso c'è poco da indignarsi, perché un terrone doc come me, che ha vissuto per 4 anni nella provincia di Varese, nella ricca, opulenta e laboriosa provincia di Varese, capisce perfettamente che il signor Bossi è la perfetta espressione di quella realtà. Cioè praticamente di come un chiacchierone d'osteria può arrivare dove vuole. Già il ministro Maroni, che è praticamente vicino di casa del signor Bossi, è già un tantino più, voglio dire, non è paragonabile con Bossi. Comunque non mancano i precedenti illustri, come un presidente del Consiglio senza laurea, un vicepresidente del Consiglio senza neanche un diploma di maturità. Il succo di tutto il mio ragionamento è... Ecco, veniamo al succo. Il succo è, non meravigliamoci del fatto che i nostri politici siano esattamente l'espressione della nostra società. Quindi non sentiamoci sempre migliori dei nostri politici. I nostri politici sono la nostra espressione, sono lo specchio fedelissimo di quello che è la società, così come il, ripeto, semianalfabeta Bossi è la perfetta espressione della provincia di Varese. Ha un elettorato, è un elettorato che ben si identifica nel signor Bossi. Non c'è assolutamente da meravigliarsi. Vabbè, non tutti i varesi adesso si identificheranno nel signor Bossi. Comunque, grazie anche a Nicola. Il punto sollevato dall'altro ascoltatore era lessicale da una parte per aver definito i pensionati dei poveracci, che questo non autorizza Bossi a farlo, il fatto di essere un politico eletto a Varese in quell'ambiente lì, come diceva lei, è stata sicuramente una cosa un po' poco elegante, ma non è sicuramente neanche la prima. Poi dietro, la prima cosa detta da Bossi poco elegante intendo, poi dietro c'era tutto il tema delle pensioni. Ma abbiamo i titoli del TG1. Contributo di solidarietà per i calciatori. Calderoli al TG1 conferma la linea dura. Se continua la protesta raddoppieremo l'aliquota. La manovra approda al Senato. Il PDL apre a modifiche ma con saldi e obiettivi intoccabili. Fa discutere l'ipotesi di tasse sui capitali scudati. Dopo il vertice Merkel-Sarkozy, borse contrastate, bene Milano, forti polemiche sulla proposta di tassare le transazioni finanziarie. Attesa a Madrid per il Papa, la giornata mondiale della gioventù, quasi 500.000 di ragazzi già arrivati, tensioni per la protesta degli indignatos. Contromano sulla 26, la procura ci ripensa, arrestato l'albanese ubriaco alla guida al TG1, uno dei superstiti della strage alla Lamezia Terme, bene una nuova legge. Rifiutata la donazione di Madonna al Malawi, polemiche nel paese africano. Intanto un'altra pop star, Lady Gaga, propone un nuovo video ricco di trasformazioni da sirena a maschio rubacuori, da sposa a Dark Lady. Commenti molto poco edificanti degli ascoltatori al 349-238-6666 nei confronti dell'ascoltatore del Sud che ha dato l'analfabeta a Bossi, e loro si scatenano con epiteti irriferibili, molto più offensivi che non analfabeta, che è un'espressione sì che colpisce nella sostanza, però è un'espressione così educata, se vogliamo, ha a che fare anche con lo stile politico di Bossi. Allora perché dare dello stronzo, del figlio di Troia a questo ascoltatore? Cari ascoltatori che ci scrivete i vostri messaggi, che sono molto poco corretti secondo me. Va bene, abbiamo Claudio che ci chiama da Lodi. Buonasera. Buonasera. Prego. Nel tema su cui volevo intervenire era quello della soppressione delle province. Sì. Al di là del tema generale, oramai, come dire, mi sembra che ci sia un vento nell'opinione pubblica che ha individuato in questo livello del nostro ordinamento istituzionale l'origine di tutti i mali della spesa pubblica. Ma al di là delle valutazioni generali, io volevo fare una sottolineatura sul passaggio che ha fatto lei in precedenza in collegamento con un altro ascoltatore, non mi ricordo francamente chi e da dove, ed era relativo alla questione sicurezza e ordine pubblico. Non è vero che la soppressione delle province non avrà conseguenze sotto questo profilo, perché il decreto all'articolo 16, che è quello relativo alla soppressione delle province, dice che... Ho detto che una fesseria? Sì, prego. Non può darsi. Dunque, sì, automaticamente vengono soppresse le prefetture, gli uffici territoriali di governo, e le prefetture, tra le loro funzioni, probabilmente la principale, hanno quella di coordinamento sul territorio delle forze dell'ordine. Tant'è vero che sono organizzate con questure che hanno competenza territoriale sulla provincia, comandi provinciali dei carabinieri, provinciale della Guardia di Finanza e via discorrendo. Nelle prefetture c'è un organismo che si chiama Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, che è presieduto dal prefetto e di cui fanno parte questura, carabinieri, Guardia di Finanza, il sindaco della città capoluogo e il presidente di provincia. Per cui da questo punto di vista la soppressione delle province non è indolore, per una questione assolutamente di primaria importanza e sulla quale l'opinione pubblica normalmente ha un livello di attenzione molto alto. Ecco, semplicemente per questa sottolineatura. Grazie. Per quanto mi riguarda, io pur avendo probabilmente sbagliato e non essendo informata al 100% su questa norma, mi riferivo però più in generale al discorso della funzione che non viene soppressa, cioè non è che chiudono i comandi provinciali dei carabinieri, quindi i comandi dei carabinieri, non ci sarà più il coordinamento provinciale, non ci sarà più l'istituzione provinciale, però non è che quei carabinieri lì spariscono con l'abolizione delle province, vengono smaterializzati, saranno coordinati in modo diverso, a un altro livello, ma da qualche parte resteranno e speriamo che vengano coordinati in maniera più intelligente. Questo sicuramente sì, è auspicabile. Allora abbiamo i titoli della 7. 11 senatori, appena 5 minuti di seduta, scena quasi surreale nell'aula di Palazzo Madama che riapre i battenti per il formale avvio dell'iter della manovra. Appuntamento al 5 settembre, ma da martedì sarà scontro sulle modifiche richieste dall'opposizione, ma anche all'interno della maggioranza c'è già chi dichiara il suo no. Ma saranno diversi gli ostacoli sulla strada dell'approvazione del decreto anticrisi, anche all'interno della maggioranza, dove c'è chi dichiara il suo no. Berlusconi e Alfano, insieme ai fedelissimi, lavorano alla mediazione. Il problema principale è la tassa di solidarietà. Chi ha pensato all'imposta sui capitali scudati? Bersani la proposta, l'Italia dei Valori ne rivendica la paternità. Berlusconi dice che se ne può parlare, ma a quanto pare potrebbe essere una discussione inutile, difficile. Infatti un'eventuale applicazione che ha riportato i capitali in Italia è coperta da nominato e secondo alcuni la tassa sarebbe addirittura incostituzionale. Si chiama contributo di solidarietà ed è rivolta ai ceti medio-alti, ma ai calciatori non piace, vorrebbero che fossero le società a pagarla e il ministro Calderoli va in pressing, è una casta di viziati, a loro bisognerebbe raddoppiare l'aliquota. Bene Milano che chiude con un più 1,27, ma i mercati del resto d'Europa non sembrano gradire le proposte venute dal vertice Merkel-Sarkozy, in particolare la tassa sulle transazioni finanziarie dell'Eurozona penalizzata soprattutto la borsa di Francoforte. Sembra davvero vicina la capitolazione del regime di Gheddafi. La TV del Rais trasmette immagini di una Tripoli lontana dalla guerra, ma l'esercito dei ribelli si trova a poche decine di chilometri e sarebbe pronta la roadmap del dopo Gheddafi. Elezione del Parlamento entro 8 mesi. Numero verde 800 24 0024 per intervenire in diretta ancora nell'ultima parte del programma. Tra pochissimo, prima però, un'altra ospite per commentare l'intervista all'ex governatore del Lazio Piero Marrazzo, che a proposito dell'incidente che gli è accaduto, che gli è costato la poltrona, cioè la frequentazione con delle transessuali, in una intervista, la prima approfondita rilasciata a Concita De Gregorio su Repubblica, ha detto... Avevo bisogno di rilassarmi, andavo dalle transessuali perché mi accoglievano così senza giudicarmi, perché le transessuali sono donne all'ennesima potenza. E noi abbiamo convocato Porpora Marcasciano, buonasera. Salve. Che è transessuale, nonché sociologa e presidentessa del movimento Identità Transessuale. A lei chiediamo, è vero che le transessuali sono donne all'ennesima potenza, come ha detto Marrazzo, e poi che effetto le ha fatto questa autodifesa di Marrazzo? Ma parto dalla seconda domanda, intanto che mi è sembrato molto la lettura di Ferragosto, quindi insomma l'articolo fatto il 15 agosto e va bene, insomma la lettura da sotto l'ombrellone. Per quanto riguarda le affermazioni di Marrazzo, io dico che le trans, non sono donne all'ennesima potenza. Che questa è una cosa che ha fatto arrabbiare un po' alcune donne, e poi commentiamo anche questo. Chiaro, giustamente, ma dal punto di vista trans fa arrabbiare anche le trans, perché come dire, nessuno... Io pensavo che invece fosse un complimento però, perché... Ma potrebbe esserlo, però fin quando poi ci si vede fuori dal comune come qualcosa di eccezionale, io credo che non facciamo un buon servizio, no? E le persone transessuali sono persone come tutte le altre, hanno diciamo delle particolarità, delle caratteristiche. Il problema è che queste particolarità e queste caratteristiche vengono sempre accentuate, folclorizzate, rese come qualcosa di eccezionale, che non fa bene diciamo all'emancipazione delle persone trans, che vogliono e mirano a una normalità. La parola è forte, ma di questo si tratta, ecco. E a me piacerebbe però contestualizzare un attimo sia il caso Marrazzo sia le dichiarazioni di Marrazzo, cioè contestualizzarle al paese, quindi all'Italia, che mi permetta di dirlo, è il primo in Europa per violenza contro le persone trans e l'ultimo sempre in Europa per riconoscimento dei diritti. E diciamo tra queste due c'è anche il mercato del sesso, quindi della prostituzione, che è il più fiorente in Europa. Quindi diciamo sono tre elementi sul quali a me piacerebbe riflettere, ma l'economia di tempo che mia disposizione non me lo permette. No, vabbè, adesso non facciamo un seminario, lei è sociologa, se no andiamo. No, però mi interesserebbe anche questo aspetto. Diciamo che alcune donne hanno sollevato delle perplessità, donne del mondo femminista o meno, su questa visione che dicono ci riporta indietro di 1000 anni, la visione che Marrazzo riporta nella sua intervista, dice appunto le transessuali sono donne all'ennesima potenza perché mi accudivano, mi coccolavano così senza bisogno, senza giudicarmi. E allora ecco la critica, ma questa visione di una donna equivalente all'accudimento è una cosa che ci riporta indietro, questa visione della femminilità, secondo lei, che poi viene da un esponente, tra l'altro, di sinistra, quindi dovrebbe essere progressista come Marrazzo? Secondo me sicuramente sì, affermazioni di queste fatte da diciamo un personaggio pubblico, almeno che lo è stato, hanno un certo peso. E qui si parla non di persone al singolare, ma si parla di categorie di genere, si parla di trans, si parla di donne, e quindi bisognerebbe pesarle molto bene le parole. Io non credo, ripeto, che le trans siano donne all'ennesima potenza. È un cliché, diciamo, una dichiarazione classica che viene, quindi è un po' un'autodifesa che ha fatto, esatto, per... io assolutamente credo una cosa autoassolutoria di Marrazzo, che tra l'altro dice di dichiararsi non, cioè si dichiara non omosessuale, tra l'altro non c'è neanche la domanda su questo, lui però previene e dice no, ma io non sono omosessuale, ci andavo per questo bisogno di accudimento che nelle transessuali è espresso al massimo. Però lei non è d'accordo? Ma io non sono d'accordo, anche perché diciamo questa è una diciamo qualità, ecco, chiamiamola così, che riguarda tutte le persone che si prostituiscono, quello di vendere fumo, no? Di far credere quello che non esiste. Beh, chiaro, E quindi di vendere fantasia prima ancora che sia. Beh, è il motivo, no? Della prostituzione, quindi, che è un mestiere vecchio quanto è l'uomo, appunto, è proprio quello, appunto, di. Il problema è che, come dire, la moralità aumenta, come dire, e il moralismo di conseguenza, quindi ci vorrebbe più moralità, secondo me, e meno moralismo. Ma quindi secondo lei, mi scusi, Marrazzo, in questo suo dire io non sono omosessuale, e giustificare invece la sua presenza lì con le transessuali, con quest'altra spiegazione che secondo lei non è convincente, cela invece una forma di omosessualità, somiglia a una forma di omosessualità secondo lei? Cioè si può andare con le transessuali senza essere omosessuali? Da molti anni che tutti si cimentano a dare, diciamo, a descrivere il cliente, no? Sia quello delle trans, sia quello delle prostitute, degli uomini, e non ci si arriva perché il cliente è, come dire, rappresenta e riporta tutta il genere maschile. Credo che più che parlare di omosessualità io parlerei di bisessualità, forse sarebbe un po' più corretto, più azzeccato, perché comunque Marrazzo era sposato, aveva dei figli, quindi potrebbe essere un'omosessualità latente, senz'altro, però visto che c'è l'una e l'altra, diciamo, componente, io opterei per la bisessualità. Però ripeto, sono categorie del genere che in un paese moralista come l'Italia sono difficilmente giustificabili, difficilmente riportabili, ecco. Non credo che almeno per ora ci possa essere qualcuno, specie di un personaggio pubblico, che possa rivendicare o dirsi tale, ecco. Quindi insomma ho aperto dicendo, riportando la contestualizzazione che è importante, e lo sottolineo questo, cioè stiamo in Italia dove diciamo tutto, specialmente negli ultimi anni, è stato rivestito di moralismo, e ripeto, molto poco di moralità, che invece è quella di cui avremo tutti quanti bisogno, specialmente quando si fanno dichiarazioni, in questo caso a proposito di transessuali, a proposito di donne, e quindi giustamente le femministe, le donne si sono rivoltate, perché quello che si costruisce molto faticosamente, molto lentamente, poi viene distrutto in pochi attimi. Chiaramente non è che le dichiarazioni di Marrazzo distruggano anni di lotte e di battaglie femministe, ci mancherebbe, però non giovano assolutamente. Grazie, Porpora Marcasciano, buona serata. Buonasera a tutti. Abbiamo il traffico. E riprendiamo con Giuseppe che ci chiama da Treviso. Buona serata. Buonasera. Senta, io, siccome c'è tutti quanti, ormai c'è una gara per trovare i soldi per la manovra che si dovrà fare. Io pensavo che, siccome la Chiesa Cattolica Apostolica Romana ha un sterminato numero di case in affitto, ha conventi dismessi trasformati in hotel, ha terreni ricevuti in eredità da persone pie, sarebbe giusto farli pagare l'ICI, perché non sono luoghi di culto, la maggior parte non sono luoghi di culto come prevede la legge che il governo Berlusconi ha fatto non appena si è insediato, proprio per accattivarsi l'appoggio della Chiesa. Questo è il mio intervento. Grazie. Noi abbiamo aperto stasera proprio con si può dare di più, purché da un'altra parte, e nell'elenco c'è anche questa proposta di finirla con le agevolazioni fiscali alla Chiesa. Abbiamo intervistato Formigoni su questo, che ha detto sono luoghi di culto gli immobili della Chiesa che non pagano l'ICI, e su questo c'è un accordo dello Stato con la Chiesa, col Vaticano. È vero, però non credo, ma qui mostro tutta la mia impreparazione, che siano solo i luoghi di culto quelli che non pagano l'ICI, sono anche luoghi annessi ad attività, per così dire, parallele. E forse su questo invece sarebbe l'ora che la Chiesa pagasse l'ICI e finissero queste agevolazioni, specie in un momento nel quale sappiamo che lo Stato non può più ingrassare e le vacche sono diventate magre per tutti. Alberto ci chiama da Ferrara, buonasera. Buonasera, grazie di avermi richiamato. Volevo solamente sottolineare una cosa, sono un vostro ascoltatore affidato, e vedo che non viene mai sottolineato che si potrebbe risparmiare anche nelle sovvenzioni alle editorie. Se un prodotto non sta sul mercato da solo, perché sovvenzionarlo? Abbiamo già un servizio pubblico che paghiamo, se uno vuole un servizio ulteriore se lo paga. Io sarei pronto a pagare un abbonamento a Radio 24, ma non vorrei pagare altri giornali di cui non ho piacere. Sì. Perché non parlate anche di questo? Ma guardi, lei dice che noi non parliamo di questo perché siamo giornalisti e i giornali vivono delle sovvenzioni. E nel mio caso, lavorando in una radio, non vivo di sovvenzioni, quindi non c'è nessun problema a dire anche questo. Le sovvenzioni ai giornali probabilmente sono sbagliate, ma gli stessi giornali, non tutti, magari non tutti nello stesso modo, poi bisogna fare delle distinzioni, ma si sono espressi su questo, per esempio. Ancora di più, forse sono sbagliate le sovvenzioni ai giornali come fogli di partito, cioè quindi si somma la sovvenzione all'editoria con la somma a un'editoria politico-partitica che è ancora più sbagliata. Ma nessun problema a parlare anche di questo, parliamone. Dove andiamo? Andiamo ad Amedeo che ci chiama da Fermo, buonasera. Buonasera, io intervengo controcorrente per segnalare questo grave danno che si sta facendo ai territori periferici, dove si produce il prodotto interno lordo italiano, dove ci sono piccole e medie imprese che hanno bisogno del governo delle piccole province, e qui si taglia da Roma, dove ci sono i costi veri della politica, si vanno ad eliminare le province senza portare nessun impatto positivo sui costi della politica. Questo va detto con chiarezza e si deve sapere. Cosa vuol dire senza portare nessun impatto sui costi della politica? Perché? Le spiego subito perché. Sì. Perché una provincia, soprattutto la piccola, ha tre componenti di costo. La prima è quella dei servizi che eroga: le strade, i trasporti, l'edilizia, il riscaldamento delle scuole, l'ambiente, i rifiuti, eccetera. Questi comunque, se si abolisce la provincia, restano. E fin qua nessun problema. Poi? L'altra voce di costo, sì, è quella del personale. Sì. Comunque, se si abolisce la provincia, il personale verrà trasferito a questa o a quell'altra istituzione e resta. E però si fermi un attimo, perché aspetta, ascoltatore, mi faccia interloquire. Questa voce di costo è destinata a non crescere, perché se noi aboliamo la provincia, oggi abbiamo 100 assunti che dovranno essere trasferiti, domani non avremo più altri assunti per un ente inutile. E già su questo siamo 1-0 per me. Prego. Fare la manutenzione della strada. O la fa il dipendente della provincia, sì, o lo fa il dipendente della regione o il dipendente Che cosa? La manutenzione della strada, sì, il bidello. Che no, ma di questo abbiamo già parlato. La prima voce è quella ineludibile. I servizi erogati verranno erogati da altri. Poi lei ha detto il personale, su questo però è quantomeno un pareggio. E poi la terza cosa che lei non ha ancora detto, l'aspetto la al varco. La terza cosa è quella del compenso agli amministratori. Ecco, esatto. Ma lei sa qual è il compenso agli amministratori della provincia? Io non sono un amministratore provinciale, però oggi nella stampa di Torino, come si è citato il giornale, non volevo fare pubblicità, ma con chiarezza è stato detto che se si abolissero tutte 110 le province italiane, tutte 110, il risparmio del costo degli amministratori non supererebbe i 30 milioni di euro. Questa è la situazione. Un presidente della Ma lei sa benissimo che ci sono gli amministratori, ci sono i segretari, ci sono tutto un apparato che sta attorno al Consiglio e alla Giunta. Lei lo sa meglio di me, è inutile che facciamo finta di nulla. E queste sono spese. Poi possiamo dire che è sempre meno di quello che potrebbe essere altro. Però secondo me siamo nella scuola del benaltrismo e vabbè, insomma, comunque grazie anche a lei, perché su questo argomento ha voluto portare il suo punto di vista. Andrea da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Senta, io volevo parlare riguardo all'apertura dei centri commerciali e in generale degli esercizi commerciali. Ho notato che neanche con una finanziaria dietro l'altra si riesce in Italia, che ormai è un paese di commercio, di terziario, non siamo sicuramente ormai un paese industriale, neanche questa volta si è riusciti a liberalizzare gli orari di apertura, che avrebbero portato, non lo so, credo qualcosa come 100-120 mila assunzioni e di cui alla fine si sente il bisogno, no? Io non so se lei sa che in Italia c'è una legge degli anni 30 che consente a chi vende mobili e a chi vende libri di stare tranquillamente aperti tutte le domeniche e se hai un centro commerciale a fianco di un negozio che vende mobili ce l'hai chiuso, mentre il negozio che vende mobili è tranquillamente aperto. In una situazione come questa, lei, lei è un negoziante per caso? No. Ho esperienza nel retail, sì. Ma rimango veramente basito di fronte ad una situazione come questa in cui si parla di crescita, si parla di occupazione. Ci vorrebbe veramente molto poco per cominciare a dare un servizio che è molto richiesto, perché la domenica sia invernale che estiva è un servizio molto richiesto, ma poi anche mettere tutti sulla stessa posizione. A lei non sarà sfuggito, girando di domenica, di vedere per esempio IKEA aperto e qualunque altro tipo di struttura a fianco che venda elettrodomestici, che venda food, chiusa. Credo che in un momento in cui si parla di sviluppo, di opportunità... Vabbè, di centri commerciali e di ipermercati aperti la domenica, io potrei citare, ma non voglio fare il nome della marca. Comunque, mi risulta che nella manovra ci sia qualcosa su questa questione degli orari di apertura. Mi risulta, però non ricordo esattamente, mi sembra di aver letto proprio che c'è invece un'accelerazione sulla liberalizzazione degli orari. Però è vero una cosa, che su questo tema in Italia si è fatto avanti indietro mille volte, liberalizzando e restringendo ogni volta, quindi c'è un po' di confusione su questo. Comunque verificheremo e su questo magari torniamo. Teo da Milano ancora, buonasera. Pronto? Sì. Sì, buonasera, sono Teo, chiamo da Milano. Prego. Ecco, scusi, non sono abituato a parlare in pubblico, quindi magari sarò un po' emozionato. Niente, io volevo parlare riguardo alle province. Io non sono troppo d'accordo con l'abolizione delle province, perché per esempio io non capisco come mai a nessuno venga in mente di copiare dai nostri vicini europei. Per esempio in Germania c'è lo Stato e i Länder, in Inghilterra c'è lo Stato e le contee, in Francia c'è lo Stato e i dipartimenti, in Svizzera lo Stato e i cantoni, Io penso che se da noi in Italia riformassero lo Stato in maniera da avere solo due enti, lo Stato e appunto le province, sarebbe una cosa migliore secondo me, perché effettivamente la regione è un po' troppo dispersiva e poi comunque abbiamo troppe personalità a capo di questi enti che, capisce, Stato, regione, provincia, comune. Grazie, grazie Teo, dobbiamo chiudere però perché siamo giunti anche questa sera al termine della puntata. Io ringrazio anche gli ascoltatori che sono in linea, rimasti in attesa, li richiameremo sicuramente domani. Intanto noi rinnoviamo l'appuntamento per domani e vi lasciamo con Viva Cuneo. Cuneo. Radio 24. La passione si sente.